buonasera. Buonasera anche a te. E beh, a tu. Giuseppe. Poi, chi è a tu? Tu sai che ti sento basso. Basso? Sì, ti sentivo basso, adesso ti sento più forte. Beh, sono in macchina, tu. Sei? In macchina. Aspetta, che zona sei? La zona mia, via Valdetta. Non sta spingendo tanto. No? E aspetta, che riprendo da casa. No. Bene, adesso con me. Io. Bene? Va. Forte ti sta arrivando. Sta arrivando abbastanza forte. Beh, sono a casa. Dov'è l'antenna messo? Qual è l'antenna? Puro nel gioco. Eh? Culo ne sono. Sempre quella là, è sempre quella della canna da pesca. Ti sto arrivando. Ma sono tra breve. Ehi, capo. Ragazzo. Barattino aggiustato? Papà. Sei andato con la persona là? No, no, da Gio Maria sono andato, la mattina mi ha saltato quel coso, quel filo, e vedi, sta funzionando abbastanza bene. Chiaro. E se no passava a mandarlo, passava qua, da problema. Vabbè, non c'è problema, dai, lo sai, no? So. Posso giù con il zente che quando vuoi, non c'è problema. Papà. Sono disponibile ben volentieri qua. Ti accenato hai anche tu? Ti accenato. Roba buona? Ho mangiato un po' di riso. C'è gallo? Sono andato a prendermi la pizza tanto, che ci avevo nel fornetto. Stanotte? Ah? Su pizza stanotte? E la miseria. Aspetta un attimo. Ah, così il tuo rumore. Mi ha il rumore che accende il salimentatore. Ma vai. Ma la scorta nessuno. Tutte le cose. Non lo faceva mai. Ma non venute la menstruazione a tu? Senti bene. Ah? Magari va all'alimentatore. A me aveva fatto rumore alla secchia di un muto. Ah? Fa un rumore. E poi c'è cagliato molto l'alimentatore. Ah beh. E sicuramente come se l'ha sudato. Papà. Vuoi che vendini uno spray per le lamelline? Ah vado, allora che c'è lì dopo un parecchio. Capa. Vabbè. Cosa mi racconti di bello tu? Cosa ti racconto? Dimmi, cosa ci sono con la molla nel pentone? Ma la molla nel pentone? Con la molla nel pentolone, altro, con la molla nel nostro pentolone. Già mangiato io. E vabbè, riso gallo? La Sardegna sarà. In bianco oppure asciugo? Sughetto. Ah, buono, con il formaggio? Ah. E per Paolo dove? Di cosa è? Dove la mano è venuta sempre cosa? Volevo computer, la gente si è atteso che è entrato. Cos'è? C'era un computer, la gente si è atteso che è entrato. A chi? Io ho atteso, a te si può dire. so che trova Gianni, tu? E Gianni lì? Gianni deve essere, sta facendo la doccia e dopo cena e poi attaccherà, penso. No, ma tu il computer non lo usi? Negativo. No, non è mai imparato. Negativo. Fra tempo. Ah? Sempre tempo da imparare. Lo so, Anto, ma non ho detto, impara il computer che è bello, ma quando uno non c'è buono a provare, è tutto vedere la prima volta, poi si impara. Ma poi ti metto un po' di quei filmetti. I cornetti? Cornetti alla crema? Cornetti, filmette. Scappa. Vabbè, a parte gli scherzi, è utile al computer. Lo so, Anto. Ti metti un giorno, a qualcuno. Fare. Ma lo fa spiegare a mio nipote, hai capito? Scappa. Ma se c'è la possibilità te ne prendi uno piccolo, col pennino e via, per entrare in internet. Vabbè, adesso quando mi entrano i soldi, uno piccolino me lo prendo perché lo voglio imparare, capito? Scappa. Sì, Monica le whisky su un sito e vedi una cosa bella. Quando mai, cazzo, tu non pensi sempre a quella questione lì. Ho così maledetto, cazzo, maledetto. Vero Anto, tu sei cazzo. Peggio di al signor Lupin. Ma non lo gioco. Iai. Giorai? Non lo gioco. Non lo sai? Non lo so. Come te c'è il computer a fianco, vero Anto? No, me ne sono tolto da Facebook adesso. Ce l'ho acceso, ma ce l'ho a fianco. Scappa. Ma che affa? Oi. Tu quanto vi tu scandalo, fare una cosa naturale, non hai più compreso, cazzo. Cantinamente canterei tu chi su, il caso Monica Lewinsky. Così maledetto, tu sei peggio di Arsenio Lupin, cazzo, tu sei peggio di Arsenio Lupin, quello che ruba ai ladri per dare ai poveri. Vabbè, a parte tutto però, a parte gli scherzi, cioè, secondo me non c'è niente di male, non è fatto una polemica, cioè più grande del normale, cioè però alla fin fine non lo so. Una cosa tu, in quella questione là, e vedi i film underground? Vedi già, è tutto di tutti i generi, cioè. È per quello che tu sei la notte, sei puntata al computer e ti vedi quella cosa là, e poi dici a me non fare il maniaco. Ma lo è tu, Gio, il virus me li piglio io. Non sono così scemo, me. Certo. Se tu metti tante di quei cose, ti prendi tanti di quei virus, che poi non riesci manco più a toglierli. Prendi il computer e te lo butti. Cappa. Lo sai cosa sono? Sono i colleghi che distruggono il computer. E lo so, ma ci sono anche tante cose, tipo i giochi. Facebook, giochi. Vedi, a me piacerebbe avere il computer per, almeno per sapere dove si naviga sui giochi, capito? Ma il computer non è solo per giocare. E vabbè, è per tutto, per scrivere, per sapere tutto quanto, capito? Ma fare l'amore su Skype, sapere il lavoro che c'è, capito? quelle delle domande di lavoro, le offerte. Fare documenti online. Tutto quanto serve il computer per quello. C'è un programma che si chiama Skype, una cosa del genere, che ti vedi nel video. Vabbè. Un'altra persona, è gratuito. Guarda, basta l'erogeno. Oia, è così la vita, San Antonio. Oggi ce l'abbiamo e domani no. Non vedi gente fa l'amore col computer. Beh, non ha altro, cosa vuoi fare? Tutti depravati. Quelle che fanno vedere la televisione, no? Quelle donne che telefonano quel numero sensuale, tutto quanto, e poi vai a telefonare e ti parte la bolletta del telefono. Tu ti hai mai visto il programma, Sexy Bar, tutte queste cose. No, io mi guardo quello di coso, Canale Italia, che poi dopo mezzanotte c'è il film, ieri c'era il film di coso, di Avaro Vitali, e cosa, quell'altra, quel tronco di canna di coso, invece Fenech, la Croce. Si chiama? Ivi, adesso non mi viene il nome, Fenech, quella buona, cazzo, quel tronco di canna. Fenech. Cappa. È grosso. Cazzo, che lei era vestita da tenente colonnello, da soldatessa, no, altro che soldatessa è uscita, cazzo, la cassa sua, cazzo, roba di ciupradira. Dimmi una cosa, ma non pure in bianchinato arrivano tutti. No, mi sto cercando qualcuno che mi venga a dipingere la camera mia, tu. Sì, tipo Paoletto. Sono in bianchino, adesso mi devo mettere a posto, la casa vuole coprire tutti quanti i mobili, con la cosa, con il tenone, e devo imbiancarmi la camera. Ma va a portare la dittuno. Ma non si vende, bianchi nel rumore se. Ma la pietà, la pietà! A posta di 5, 4, 10. Tu quando sei incappata, quando già sei tutti in antecedente. Aspetta, guarda, prendimi qualcosa, dai, che c'ho la gola secca, tu. Tu. Ma tu stavi fischiando? Ma è qua, sono andata a prendere la roba, cosa è successo? Ma sono andata bene. E nel frattempo ho mangiato un pezzo di cocombola. Gaffa gaffa. A me non sono più tranquillo adesso. No. Poi? Ho capito, Giuseppe. Ho detto, a me non sono più tranquillo. Ho mangiato un pezzo di cocomero, di anguria, dei pezzi che erano già tagliati, e ho bevuto un po' di Coca-Cola. Questo è il cingri a Germania. Cappa. Sono un minuto. Ma ti piace a te? Mi piace. No? Che mi piace, ti ho detto. Avevo capito, no, non mi piace. Io me la Germania due mezzo, buonasera a tutti. Ciccio bello, ciccio bello. Ma io me ne sono mangiato, Giuseppe. Dimmi a tu, dimmi già. Mezza zingara, mi ha comprato una mia moglie oggi di anguria che era fenomenale, dolcissima, ma proprio dolci dolci. E quando sono tornato ero tutto stanco su altre cose. Ho preso proprio come antipasto, me la giumagnata, la metà della metà me la giumagnata. Cazzo, leggera. Va bene, io mi ho mangiato adesso un pezzo di quella rimanenza di quella pizza, un pezzo di cocomero e un po' di colombo. Ma no, mi sono mangiato filetti di salmone in bianco, oddio, fatti col condimento, va. Bianchi, sono bianchi, sono, non fanno ingrassare, va. Quello lì, l'anguria e via. Beh, io nel forno c'è i filetti di merluzzo, poi c'è la pasta con i pisciti, ma non ha giugana, allora metto dopo li tiro una sussa ai filetti. Il pesce non fa ingrassare, poi non tocca una cosa, se mangio pesce c'ho sempre la glicemia perfetta. Se mangio pesce o carne bianca, se mangio carne rossa ammazza di brutto. Quindi bisogna anche tenersi un po'. Oh, yeah. E allora i temi contati, se c'è un tutto. Oh, già. E stavo parlando del più del meno, Antonio dice, ma tu non hai mai imparato al conto del computer? Quanto no, non ho mai visto come si usa il computer. Basta prendertelo, lo usi, io ho imparato da solo, senza che nessuno mi dicesse niente. Sto questo adesso, come ritiro quei soldi, sperando che il signore me ne dica, mi piglio un piccolino computer, capito già, di quelli tipo il tuo. Quello è bello, costa solo 200 euro e fa tutto. L'interessante è che tu non abbia pretese di ascoltare dischi, MP3, cose così, perché te lo devi mettere esterno, allora, la lettore CD. Però per il resto fa tutto. No, mi serve per navigare su internet e per quelle cose delle, come si dice, offerte di lavoro, trova lavoro, capito, quella roba lì. Paga. Prendi tu, ci sono bello due. Mi metto una chiavetta di quelle per navigare in internet, perché se c'è il computer devi anche navigare in internet. E via, non c'è bisogno di fare wireless, a mettere rete fissa a casa, né niente. Una di chi si è via, tanto per come lo usi tu. E ma le conviene quella che ha preso per Paolo, Antonio? Anche quella, ma lui che è da solo gli conviene una chiavetta. E della corsa, della Omitel, quella roba lì, o già? Sì, sono quelle chiavette ricaricabili. Come fosse la scheda telefonica? Ah, ho capito. Adesso vediamo. Già, tutto della materia prima, hai capito? Quando c'è la materia prima si può organizzare tutto, hai capito? Quando c'è la materia prima. Se non c'è materia prima, devo aspettare. Un pezzo. Ho sentito che hai lavorato. Sì, ho fatto una mezza giornata, così leggera, piano. Sì, cazzo, non è che mi abbia dato molto, capito? Dalle 8 alle 2 ho fatto. Dove? È una campagna, vero? Stavo aiutando a mettere i muretti a secco, capito? Ah? Sì, vabbè, mi ha dato 50 euro, hai capito? Dalle 8 alle 2. Ah, se mi dici che ti ha dato poco, sta scherzando, ti ha pagato benissimo, non poco. Beh, 50 euro perché dice un altro prendito, allora, guarda, io di solito quando faccio questi lavori così sto pigliando 60 euro, però a te che sei un amico ti faccio 50 e hai aiutato a portare materiale, come si dice, materiale, cemento, quella roba là, a preparare il fatto, capito? Già va bene. Ma detto, se capita altro lavoro, tanto il numero tuo ce l'ho, ti chiamo, mi dici dove sei, vengo e ti prendo e scendiamo assieme, capito? Già va bene. Tu, Giuseppe. accetta meglio quello che ti pagava pagato da. È meglio quello lì che ti dà 50 euro piuttosto che quello che non te ne dava niente. Ecco, me li ho incassati alle due, davanti a mia madre, a me no. Me le tiene lì e me le dà poco tanto, ho capito. Buona calma. Sì, perché se ce l'ho solo in mano io, giro di due minuti non c'ho più 50 euro, ho capito? Ma già. Ci amministra. Negativo. Cazzo, sei stato anche padre di famiglia, cosa me ne sei il mio amministratore di denaro? Sono troppo cazzo spendaccione, hai capito? Troppo spendaccione, come mi è entrato su di mano a me è subito, lo sai come sono fatto io, no? Mani bucate. Scappa. Ancora ripeto. Ma c'è un limite a tutto, Giuseppe. A me mi hanno insegnato sempre che se guadagni 50 devi spendere massimo 30 e 20 metterlo da parte. Affa, lo so, anche a me hanno insegnato quello, però io 50 ne ho, 50 ne spendo. Quello è il fatto di quella questione. Io i soldi non me li so mai amministrare. L'unica volta che me li hanno amministrati era un mese, c'avevo, allora io parlo di lire, c'avevo 250.000 lire. Quelle 250.000 lire mi hanno durato un mese, strana cosa. Se invece di un amico che ha pigliato 200 milioni per un incidente, se li ha sputtati così viaggiando, facendo regali, così poco c'è, in un anno si ha sputtato 200 milioni. Capo che cazzo. Lizia, benvenuti in mente di andare a Roma, perché per passivo? Non funziona proprio nulla, si è diventato di un ragazzo, adesso non è il bagaccio, proprio raccoverano. Albergo di prima categoria, faceva il pascià, per quanto l'ho potuto fare, avevamo le divane a chi non va le missioni, di trovare il meno. Lo sbaglio mio anche quello che è stato l'incidente, che è stato avuto un incidente, però appunto di avevano dato, in tutto mi avevano dato tra madre, mi avevano dato 17 milioni in lire. E io l'ho fatto un coglione, no? Ho preso e mi ha riparato la macchina già. Cazzo, mi è riuscito cazzo di più di quanto cazzo l'ho pagata, hai capito? Già, dei 17 milioni per riparti la macchina. Affa. E ci mette, allora il danno della macchina era 10 milioni e mezzo, c'è, più c'è 7 milioni tra coso, tra malattia e quella cosa là, allora con 7 milioni, 17 milioni, e io coglione, cioè, avrei saputo, avrei passato quell'appunto, almeno avrei preso un'altra, no? Tanto che quell'appunto era un pezzonato, perché ci avevo fatto un sacco di lavori con la macchina. Dunque, mi dispiaceva l'ha capito. Se l'ha aggiustato l'ho pagata di più di quello che Lucia ti è fratto tutti di là. Quasi 11 milioni mi è venuta la macchina, riparata com'era. Vabbè, cosa vuoi fare Giuseppe? Bisogna ragionarci con la testa, tante volte uno non ci ragiona, magari o è perché affeziona una macchina, ma gli oggetti non bisogna affezionarsi più di tanto, sono cose materiali, capito? Bisogna affezionarsi al più alle persone che agli oggetti. Chiappa. Certo, con quei soldi che ha speso ci va nuova. Ci va nuova, sì. Ma lo sai, Roberto, che io con la macchina l'avevo fatto tutto, hai capito? L'avevo fatto l'assetto, l'avevo cambiato la marmitta, l'avevo messo la marmitta a sprint, super sprint, tutta, dal motore al collettore alla marmitta, l'avevo fatto l'avevo messo i cerchi in lega, i pareti, il manubrio nuovo che avevo piazzato a casa, guarda, era tutta bellina la macchina, allora, l'alettone dietro l'avevo piazzato, bello, nero, tutto fatto come una macchina da corsa, hai capito? Allora Mario, 4 ore. Cazzo, ho preso dei driver spesso, non veniva nuova, non veniva a prenderla già fatta, già sporta. Infatti, come fare così? Ma qui sta la 500, ce l'ha quello dell'istituto che è vicino a noi. Detto, fammi vedere un po' questa macchina, apri il cofano e cosa. Il cofano non è piccolo già. Ma la 500? Va. È più grande della panda tua. No, la panda mia non ce l'ha grandissima, ma è... E poi io adesso sto girando un po', ancora non mi ho fatto un'idea, ho guardato la C3, mi piace la C3, poi bisogna vedere, Antonio, bisogna vedere la decisione, perché mia moglie non vuole spendere molto e cose, è indirizzato anche sulla Panda, non lo so, adesso vediamo, stiamo girando. Vabbè, vedete un po', fate anche una valutazione voi, vedete un po' voi, dai, si prenderà anche una macchina che, insomma, che vada anche bene. Ah, la Panda non penso che vada male, è un 1200 passa, c'ha tutto climatizzatore, c'ha tutto quanto di segno. Lui è bellina, nera è bellina, ma avevamo visto la C3 e ce ne siamo innamorati, ci piace troppo. No, la Panda va benissimo, soprattutto l'ultimo modello che è uscito, va ancora meglio qua. Qual è l'ultimo modello, Antonio? L'ultimo modello, quello che c'è in Lega, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque quella C3 mi è piaciuta un bel, ho guardato tutta la strumentazione di bordo, è troppo bella, tutto il computer di bordo ti dice quanto è fatto al litro, quanto devi andare per consumare quel tanto lì, c'è tutto quanto. Si ha 3 cilindri la C3. Ma sì, Lucy, la C2 e la C1 sono a 3 cilindri. Sembra c'è una versione, bisogna vedere, dai. Sembra c'è una versione che sia da 3 cilindri. Oh no, tu, mi sa di no, ce l'avrebbe detto. Cazzo, questa qua è molto bella anche dentro, come è fatta a fare un aereo, sa perché costa, però è bella, molto bella. Adesso vediamo. Adesso potevano essere solo la Peugeot. Dico la verità, ti dico, a me le macchine francesi non mi sono mai piaciute, la verità è una cosa mia personale. Ce l'avevate la Renault? Già ce l'avevamo, andava bene, però non mi piaceva. Andare bene andava bene tutto quanto, non mi piaceva proprio lo stile. Antonio, 25 anni la butta. Antonio, l'amico mio, quella macchina Renault come quella di tuo padre, 25 anni. Oh, lo so. Sono macchine, adesso non lo so come le fanno, però cazzo, quella di Antonio era seperrato bene, una volta veniva della marmitta, siamo andati fuori e praticamente gli si è spaccata la marmitta, quella fare in plastica, ce l'ha presa in gomma, si è spaccata e ne va della marmitta e la lasciava in terra. Allora cosa abbiamo fatto? Ci avevo le fascette in macchina, visto quei ganci che ci sono, che dove aggancia quello a fare in gomma, abbiamo messo una fascetta larga e ha fatto la cosa, e dopo si è tenuta con questa fascetta, non l'ha mai messa a nuova, con questa fascetta si è andata demolita, perché poi è diventata esterribile, gli ha cambiato un sacco di roba, ha cercato di tenerla in vita più possibile. Era il motore Energy. Ero una... Cioè, lo sai, non sono... Camminavo le macchine Renault, però non sono molto spinti il motore. Oh, adesso ho preso la Dacia, 2 mesi ce l'aveva, sono andati a farsi una gita con la famiglia, hai visto quel pullman che ne aveva preso lui sulla 131, si sono rovinati in chili, l'ha distrutta tutta quanta sfasciata, adesso l'hanno pagato tanto per aggiustarla, gliel'ho dato, però si sono fatti male anche loro, ho detto, visto perché non avete messo l'agenzia, magari vi proteggeva e vi dava qualche cosa anche per la malattia, dice che ci hanno messo un bel soldi per la malattia, non gliel'hanno pagato. Cinture ci vogliono. Le cinture? È tutto. No, le cinture ce le avevano. Ah, praticamente questo fumo ne ha perso la nafta, si è buccato il coso del serbatoio, che cosa? Ne ha perso la nafta e l'ha sparpagliata in tutta la 131, praticamente camminando, e non se ne è reso conto, questo continuava a camminare e ha sparso la nafta da tutte le parti. Lui ha visto delle macchine che erano girate, che è andata a rallentare, e si è girata anche la sua, è andata addosso ad altre macchine, capito? E l'altra gli è andata addosso a lui. Si sono fatti male, loro le cinture ce le avevano. Ah, cazzo. Cazzo, nuova nuova. Hanno tutta distrutta, cazzo. Dietro, davanti, lateralmente, poi una si è sbattuta all'altra, le macchine, e poi si dovevano tutti rivalere sull'astro, perché questo puma che ha causato tutto l'incidente, no? E praticamente ha telefonato all'assicurazione e lui non risultava nemmeno, come se non ha preso, ha fatto una ricerca, ha dovuto fare scomodare un po' di gente per fargli avere questi soldi. Avanti, carissimo Gianluca. Ciao, grazie Gianni. Salutoni a te, però non so se sei con Antonio e Giuseppe, perché saranno. Cappa, c'è Antonio e c'è Giuseppe. Vai, per vai. E io non ci sono, non mi volete. Ciao Antonio, c'è Giuseppe, dopo che c'è allora già. Ciao Antonio, se tu non entri lo fai break, qui c'è Antonello che sta entrando adesso. Avanti Antonio, con la buona sera. Buonasera a tutti, Antonello qua in Girella, in paese, che sto ancora con la mia famiglia a prendere un pochettino di aria. Buonasera a tutti, se mi chiompeate con la buonasera. A te, ciao, ciao Antonello, che sembra una nubile, ciao Giuseppe. Ma mi sono ingarbugliato. Allora, Gianni Doppio Giuseppe. Chi ce n'è ancora Gianni, scusami se non ho Antonello che è entrato adesso. È Bombolo. È Antonio Bombolo, scusami, cane di suono da figlio. E me ne trovando. Perché si sono in sciubabbe già. Antonio, ti ammiro che con la stanchezza riesci ancora a avere la voglia di uscire. E lo so, per la famiglia io do questo e altro. Beh, già lo credo. Allora, cosa si fa? Sacrifici anche questi. Ciao Gennaro, come mi senti con questa radio? Sto provando questo macchino, questo microfono. Bravo, Masi. Toccai più sulle. Questo è Toccai, amico mio. Meno sciure, il modello quello madre in USA, però quello con la testa grande. Aspetta, ti dico, queste sciure Brothers Inchissi, transistor dinamici microfono, modello 52 2526T, serie 2, assemblato sciure in Messico. Allora, è quello che c'ha il regolatore rosso del coso, delle attono, e poi c'è il volume nel braccio del coso, del microfono, così. No, già, questo qui è quello col tasto, con la portante nera e grigia, scusami, lui è nero, dopo passando il pezzo di sopra che è satinato in alluminio con la scritta Shure, il campo lungo, la testa grande, il potenziometro, c'è solo il potenziometro sulla destra, vicino al gambo, è proprio originale, non è stato fatto nulla. E questo qui è importante quando deve essere portato al piso, devi schiacciare e tirare verso di te la, diciamo così, il casco grande. È come il mio, però vabbè, sarà un altro modello. Comunque tratta di più del stare più tre. Come questo cazzo lo devo fregare. No, scusate gli altri amici, ma sì, che così rispondo a Gianni. Salutiamo così, facciamo girare per i saluti a Mondo, Antonio. Sto ancora a girare la ruota. Non ho provato il carne qua già, perché non andava bene. Dovevo staccare i fili del microfono, che però purtroppo ce l'ha attaccati a Ranger, però sarebbe due volte ho visto che ho trovato questo qui, che sicuramente sarà fatto con un altro barattino che si assomigliava, si avviceva, l'ho messo la batteria, ho visto che funzionava e l'ho lasciato, ho detto ma nonostante tutto c'è una bella radio, questo è rimane più metallica. Rimane più metallica quella del tavolo, fidati. Avanti Antonio, poi fai girare. No, a me la modulazione del tunnel piace moltissimo, eh. Anche questo va bene. Certo, se l'avevo sentito su quell'apparato avrei dato un giudizio al tunnel. Scusa Antonio, no Gianni, scusa, mi sono intrecciato quelle parole, è più metallica quella del Carmel, sì, confermo. No, io vi faccio subito adesso dei passaggi con questa radio, e dopo attacco il Ranger col Carmel, così vi si può rendere conto un attimino che cos'è. Comunque, il Toccherro risponde molto bene con lo Shure, dove risponde molto bene anche col Carmel. Però con lo Shure proprio mi fa la mia modulazione. Sì. Va bene, bella amplificata, bella forte, così non ti avevo mai sentito. Guarda, questo è toccare. Aggiungiamo su una pazzia. Prima di casa dove ho fatto con Gian Paolo, a dove mi sono cambiato l'antenna della macchina già, ma molto meglio, ho messo un'antenna con un mosso più, una base più grande, molto Gian Paolo. Questa c'è la base della TV, si sente proprio un bagno TV, proprio al minimo minimo. Adesso faccio una cosa, adesso metto il commutatore nell'antenna grande, no? Così posso usare anche un'altra radio se voglio provare. Ho messo una posizione a quello che uso così sempre, e l'altro l'ho giocato qua, sono camminato per le amici, proprio una situazione proprio tremenda. Ma io mi sento dalle cuffie, che ho messo il volume addirittura due tacche in meno, ho dovuto abbassare, perché se no mi fa dentro di TRF nelle cuffie stesso. Già va bene, quante ne avesse in macchina? Una Sigma mi sembra che si sia nera, con la scritta col colore arancione. Bella, c'ha lo stilo. Allora, quello stilo che c'avevo io sotto era minimo da 2 da 3 di diametro, che sembra che sia zinco, d'acciaio, rosso proprio, e 15 cm, minimo, la nota gliene frega 15 cm, 20 cm, ma quello stilo è proprio robusto proprio, cazzo dove imbatti, se lo trova Claudio a 9,20 dalla macchina. Aspetta Gianluca. A quanto alto lì? Ascolta, togliami una curiosità, scusami se ti disturbo, ma l'apparato è arrivato, ti è? No, tranquillo. No, me lo devo spedire lunedì, avantieri, non ieri, avantieri, dovrebbe essere arrivato oggi, forse arriva domani. Ascolta, comunque è tutto a posto, sì. Quanti lavori ti devono fare, le carature? Quanto ti è rimasto? Più di un mese? È più di un mese. Comunque è perfetto e funzionante, dai. Quando arriva me lo fai sentire, dai, continua. Senz'altro, te lo faccio sentire proprio con il suo microfono di linea. Più superiore ancora questo qua, superiore di un mese. perché un microfono dinamico adatto a quell'apparecchio là, tipo quei microfoni quelli delle sale di incisione che risulta tipo a mano avanti, capito? Va bene, ascolta, un controllo da qua che sono in macchina. Buono, mi sta arrivando 4-5, radio 5. Il segnale è questo qui, è di questo barattino a svita delle toccaglie. Adesso io commuto e mi darete un parere con tutti i ragazzi di giostra. Se è meglio questa radio con questa radio oppure l'altra. Ma ti dico che sto commuto l'antenna. Ma ascolta un attimo, ma quel toccaglio che gli te l'ha dato Giampaolo? Sì, sì. Era quello che c'avevo io, Ehi, Antone, questo qua sto provando, sì. È una cannonata. È nuovo di zecca, mai usato. Lindo. Lo so. Si chiama Lindo. L'ho cacato lo su e la tavolo. Senti un po' come pompa, Antone. Quello se l'unico problema, non capisco che il regolatore dei toni che gira a vuoto, sicuramente lì ci vuole il pezzo suo originale, quello per accendere e spegnere e regolare i toni. No, negativo, qui è stato sicuramente, tu neanche ne sapevi magari, però c'è poco da valutare, perché io ho levato il pomellino suo lì, facendo attenzione sempre, e praticamente il potenziometro non ha le due funzioni di volume e di squelci, ne aveva una sola, sicuramente è stato sostituito il potenziometro, bisogna rimettere il potenziometro suo. Ho capito, invece lo stalker che fine ha fatto? Lo stalker 9 o 5 stalker 9, stalker eia. Quello ce l'ho sempre, l'ho messo nella zona, nella bizzona l'ho messo quello, già, Antonè, cavolo, vedete come pompa. Quello ce l'avevo io lo stesso, il nuovo di zecca, hai visto? Devi vedere cosa pompa, mi dopo faccio anche un passaggio da lì, Gianni. Allora, teniamo con te la direzione anche Giuseppe Antonio, Bobo e tutti. Allora, adesso smetto di modulare con questo, commuto, e mi saprete dire se è la migliore l'altra modulazione che faccio a breve. Vedi? Adesso è un tempo di Bianca, Giuseppe, avanti. Ciao. No, questo qua rimane più sacro, sembra più non è chiara la radio come quello là. Quella c'è la potente e chiara, se mi sotto casa. Questo qui non rimane chiara la radio. Questo qui non rimane chiara. Aspetta che voglio provare a passare un pochettino di vitamine, di truccare un po' per il rubodo. Adesso com'è Gianni? Prova a fare un passaggio lungo. Prova a vedere, adesso ho passato la metà delle vitamine che le stavo dando, però invece prima con l'altro stavo andando proprio a massimo regime. A massimo regime, era una cannonata, Allora, vediamo un poco. Passiamo appena la tensione di alimentazione, mettiamo la giusta, che non vorrei che andasse in saturazione. Allora, così invece adesso solleviamo vitamine. Qui proprio le stiamo dando proprio un'overdose di anabolizzanti. No. Come solito si sporca la radio, mentre invece con l'altro la radio è pimpante, è forte e chiara. La mia critica è questa, se vogliamo chiamarla critica bonariamente. L'altro, anche con le vitamine sollevate va bene, questo qui no. Ma invece lo tolte, ti viene bene provarlo? Questo nero non lo sento, un basso, deve essere che qualche zona ombra. Avanti, bombolo! Ti ha detto se ti viene bene a provare lo stalker. Sì che mi viene bene, lo provo anche quello lì, adesso commuto e parlo dall'altra zona. Non so se però bombolino ci sono ancora con la frequenza? No, sono gnocchi. Ehi, tu cosa mi dici a tu? Vabbè. bene, nell'altro sicuramente te ne mangia un pochino la radio, perché magari ci sono troppi vatti di alimentatore amplificatore, capito? Vanno in contrasto. E quindi te ne mangia un pochettino la radio per quello. No, ho capito, però quanto manca leggermente a passare, c'era per questo. Però io qui sotto cambio il suo potenziometro già, eh. Allora, rifaccio un passaggio nuovamente con la col toccare. Un attimino. E mettilo al massimo, perché voglio vedere come va al massimo. Ecco, là. Ok, adesso sono con il toccare. Chi c'è mangia poco, davvero, me, ma non lo sai. Qua non si mangia nulla, la radio è chiarissima, sempre sotto casa, appunto. Sempre sotto casa, allora adesso accontentiamo a Antonellino e facciamo il passaggio con lo Stiker, con l'altro microfono ancora da palmo, perché lì c'è un microfono da palmo, eh? 2 secondi. Tranquillo, bombo, la microfono, bambino. Tranquillo, se lo ci ha chiamato Antonello. Bombo, ti ha chiamato Antonello. Bombo. Allora, mi concedo di nuovo questo parere, Antonello, che miseria. Migliore. Già. Vado di là, quella zona là, hai capito? Vabbè. Gianni. Ora sono aumentato, che forse stavo facendo senza antenna prima. Prova a vedere. Ero senza antenna prima, ho già. Hola. Sì. Ero senza antenna. Guarda a vedere, questo è il toccai. Il toccai. Vediamo un po' quello abbassare appena perché sto innescando. Ok, questo lo spegniamo. Vediamo un po', com'è con la situazione? Buona. Sta uscendo con il filo solo. Con il filo solo sta uscendo, allora? E il punto di tiro va a pesci. Sì, adesso faccio un passaggio quello col Turner. Vediamo un po' come va col Turner, ok? Però io qui voglio fare questo passaggio, dai. Voglio andare liscio normale. Ecco qua. Liscio, Gianni, senza considerare la situazione di watt. Radio modulazione, come ti sembra? Chiara. E Antonello? Perfetto, anche per me chiara, è qua. Ok, allora io sono con il attivo e ritorno con il Ranger, ritorno attivo con il Ranger, con la posizione del Ranger. Un secondo, con la 215, ok? Ok. Abbassiamo questo, perfetto. Allora questa invece è l'altra radio con l'altro microfono. Questo dovrebbe uscire più forte dei watt, però, dovrebbe uscire al doppio dei watt. Vediamo un poco, mettiamo scala da, ecco, questo qua esce con quasi 10 watt, lo di più esce, modulati sale anche 15, invece l'altro sono 4, da 4 a 7 watt modulati va. Il toccare dai 4 a 7, anche questa come vi sembra? Meno chiaro, anche io preferivo la prima, eh. Migliore l'altra, senza ombra di dubbio. Antonello, cosa ne pensi? Secondo me era meglio il primo passaggio, il secondo per il mio orecchio non era tanto bello, Ti piace più l'altra? Sinceramente sì, molto più limpida come modulazione, molto più limpida. Ok, Modulino? No. Stai chiedendo il parere, Antonio? Avanti. Stende. Avanti con te, che se il parere, se preferisci la prima o la seconda, diciamo. Se è una cosa che andava bene. Questa qui cosa ti sembra, tu? Più chiara per te le tue orecchie, come mi ricevi, meglio prima o con questa qua, come ti sembra? Quello era più forte, era. Non solo, anche più chiara. Che adesso commuto qui dove c'ho l'altro barattino a 2 metri, un attimino, Prova così, essere sempre Doc Handy. Sono stato già oggi è proprio silenzioso la 27. Ovvio, magari sono in giro o cosa. Sai com'è l'estate, uno prende e va. Io oggi sono molto stanco, se non me ne sarei uscito anch'io. Ci sono, Ah, è già. Sì. Allora, dai. Antonè, questo qui è lo Stryker, mi. Vedi un poco come sta andando? Adesso, vabbè, adesso il segnale, vabbè, che c'è un'altra zona, qui mi sta arrivando qua in macchina, un Santiago di 4, una radio di 3, però è molto comprensibile, limpida, a modo mio. Ok, guarda, ti ho già detto inserito anche qua, ma mi ho fatto arrivare qua, vedi un po' dopo me, Antonè, lì. No, niente, la radio aumentata a Santiago 7, radio di 5, però la modulazione è saturissima. Ho capito, invece tu oggi a Nari, com'è? Sempre molto satura. Troppo satura. Non poco, è molto. Ma troppo saturazione, come mai? Vabbè, la spegniamo. Ci ho messo un attrezzino piccolino qua. Ho fatto questo lavorettino, insomma che magari l'avevo utilizzato, che poi non ragionavo, ho mandato un ghizzo, c'è ancora un po' di 2-9 in orizzontale, senti qualche QSO da qualche parte, come è capitato tra l'altro, ti dicevo che stavo chiacchierando con quelli due di Pordenone e l'altro di, dove era, nella Calabria. Comunque, eravamo benissimo, proprio stavo parlando con questa radio. Ma qua c'è anche la bandiera laterale. Esatto, questa c'è anche le bandiere laterali già. Ma cos'è stazione base? No, stazione mobile questa qua. Stazione mobile. La grandezza di una la 48 leggermente più grande, però è spettacolare di radio e di ricezione, molto buono. Cioè a me piace tantissimo come radio. C'è lo Stalker. Sì, questo si chiama Stryker 9, 1 I lunga, no, e dopo la X, dopo, numeri romani, 9. Ah, ho capito. Non me l'ho buscato, Antonio, dove l'hai buscato questo Stryker, se non sono troppo indiscreto. Ma è? Dimmi già. Non l'hai preso questo Stryker, o come si chiama? Su internet almeno 3-4 anni fa. Già mi sei saturo. Ancora? Ho spento. Va bene, io. Sera, buonasera a tutti, vi ascolto. Ciao caro, aspetta un attimo che riprendo la tra parte. Ciao Salvi. Ciao. Stavo guardando, lo segnalate quanto c'è io un po' di picchiere attivi. Cavagalo. Ma qua non mi risulta, qua ci sono positivi. Positivi, cambio. Adesso sì, poco fa no. Guardatemi la casa, sentiamo sulla casa, sta arrivando al mio parcheggio di casa, per un secondo ci sentiamo. Ok. Ci sentiamo dopo, se è arrivata a casa. Raga, ma stanco si sa. Abbastanza stanco. Si sente dalla voce. Non ti avevo mai sentito così muggio. Vabbè, ma i problemi ci sono già, ma sono la stanchezza, dai. Raga, vabbè. Dai, non ci pensare, goditi la serata, futtidino. Però è così, no. Quando ci sono problemi seri, cerchi di non pensarci, ma ci pensi sempre, dai. Ma raga, mi auguro che sia una cosa risolvibile. Fare fuori in continente a Milano mi sta male. Ah, vero? Scappo. Ma lo sapevo. Senti, vai. Sto a letto. Non ci sono mai visti, mai sentiti, dunque, non potevo dirti. Ma raga. Ma male in che senso? Male è proprio molto giù. Male, già, male. Ma non ci vediamo, te lo dirò, dai. Ma non è solo quello, sono tante cose tutte messe assieme. Sto male anch'io, come sapevi, infatti, dai. Stavo l'ascolto, dai, già sono qua l'ascolto, non ho voglia tanto di parlare. Ah, quello che ti posso dire è farti i migliori auguri di tutto a tutti i diti. Speriamo che sia tutto risolvibile. Sì, grazie, anche da parte mia, un abbraccio, speriamo in bene. Anche da parte mia, salve. Fate coraggio, che i problemi bisogna superarli. È positivo, ci stiamo provando, dai. Vi ringrazio comunque. No. Abbiamo avuto anche noi problemi seri. Io un po' di mesi fa ho visto mia madre che era nell'altro mondo, quindi ti posso capire cosa è. Vabbè, parliamo di cose tranquille, anche perché così a me non può si distrae un po'. Avanti, oh, Antonello, riprendi. Forse deve essere non è ancora arrivato a casa. A chi tocca? Giuseppe. Sono qua già. E beh, com'è adesso il segnale? Riesci a vedere? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. E barra domani, dove sei? E dove sono? Immaginatelo. Vabbè, lo sai dove sono, no? Ma dalle coppiette. No, non ce n'è coppiette, sono solo. Paga. Perché ti fusi leggere? Andava, comunque si vede tutto, è bello perché è tutto luminoso. Se guardi tutto luminoso si vede tutto il panorama. Ah, è quello che mi sto guardando. Quindi sei nella sua bella salona? No. Lì si starebbe bene con una bella pifella, mi dice, altro che con baracchino. Vabbè, che cosa vuoi fare? Non ce ne sono, mi tocca rimanere da solo, solo soletto. E non arrivo a per niente, sul cicciaue. Gianluca. Ehi. Ma ci sto arrivando io da questa parte. Santiago, allora, 6-7. Radio 5. Più forte dell'altro, no? Sì. Sono in barra mobile, grazie al coso. No, ma lo so anche con la radio, è proprio chiara. Ma comunque stasera abbiamo capitato anche la giornata che non c'è stata questa propagazione, che c'era da una bomba, anche se no, via. Che non c'ho la possibilità di fare quella cosa là in casa, cioè, oh, vedi come sarei, avrei sparato bene io lì. Ah no, piano piano, che si mettono a posto le cose. Sperando che la questione si risolva la prossima settimana, la prima cosa che faccio è una cosa che devo fare con Gianni, e lo sa già Gianni cosa devo fare, no? Vero già? Cavaraba. Facciamo quel lavoretto a quell'apparato e le facciamo quella roba lì già, gli facciamo la modifica e le attacchiamo quella cosa là. Cavaraba. Riprenditela tu, piccolo Celentano. Sei piccolo Celentano. Ah no, che si chiama Vicenzo Moroni. Se stai leggendo a me sarò piccolo d'età a confronto a voi, ma però più altro già e vedo un abuso. Non era riferito a te o a tu, non era riferito a te, era Gianluca il piccolo Celentano di Polotoro, cioè. Se mi piace immaginare che ridete a me. Comunque c'è la voce un po' come il Celentano, non molto, però la somiglia. Ehi, vabbè, già mi piace cantare anche tutte le altre canzoni. Già mi piace anche il Celentano. Non posso negare che quando ho cominciato ad avere questa passione e a incominciare a esibirmi là, nelle cose anche così in famiglia, con gli amici, cose così, è stato proprio Celentano perché c'era un carissimo mio zio, fratello di mia madre, che io ero proprio un appassionato di Celentano, proprio lo faceva preciso preciso. Dopo io che invece ho cominciato Celentano, ho comprato cantatori, e dal 92 adesso sono irremovibile quel nome. già, dai. Quando ci sono accampamenti ai nomadi, che dobbiamo venire a vederli. Ciao, oh, Gianluca. Il 3, già. Allora, oggi sono andato per la... Quel grafico stanno chiedendo di fare la bozza per quanto riguarda i manifesti dei programmi, invece manifesti grandi, quelli che andranno con la fissione dei nomadi grandi, quelli ce l'abbiamo già e li cominceremo in questi giorni a attaccare, dai, a girare al Gero, insomma, la provincia di Sassi dobbiamo fare tutta. Per il programma ti preannuncio che sarà così. Giovedì ci saranno le canti sardi, il giorno 1, giovedì di settembre, primo settembre, canti sardi con dei nomi raffermati della musica dei cantanti sardi, questi non me lo intendo, quindi ti direi una cosa per un'altra, comunque gente conosciuta, gente che va in televisione. Il giorno 2 ci saranno, che sarà venerdì, i Zeppara, quelli che fanno musica folk sassarese, con batteria insomma ritmata, abbastanza bella. Il giorno 3 di sabato i nomadi e il giorno 4 domenica Raul Casalini, un liscio. Che bassista mio zio, Tore, che bassista di Zeppara. Certo, lo zio continuava il tuo gruppo. Ehi, ha quello capelli lunghi, brizzolati, che sono al basso, quello lì è il cugino della madre. Non sono, sono bravi Zeppara, scusate l'intrusione, dai, ripieni già. Cavagalo. Vabbè, comunque i nomadi non sono male lo stesso, Giuseppe. Dimmi già. 3 ci scendiamo. 3? 3 settembre ci sono i nomadi. Sono i nomadi. Nuova campanetta. Cala. Ma che quando capita? Di sabato. Però ti preannuncio che io ho un conto sospeso lì, quindi se ti devi affarla di farla. No, già io se devo scendere, scendo tranquillo, senza attaccarmi con qualcuno, lo sai, no, che io no, non mi voglio azzuffare perché non ho la giugana, non ho più la voglia di azzuffarmi. Oh, poi se provano a fare la riccia, facciamo una riccia allora. Dallo, Giuseppe. Buonasera, ci sono. Che chiama qua? Ma Gianni, a che ora iniziano questi i nomadi? A che ora è? Ciao a tutto Gianluca è organizzatore. Avanti che stava entrando, comunque rispondo prima a secondo prima di... No, ma venite da prezzo per il parcheggio più che altro, Tanto se vi dovete mangiare un panino, ci abbiamo lo stand con le cose, che facciamo il panino, le birre, tutto quanto, ci sono anche i camioncini, insomma. Il mio consiglio è di venire un po' presto per il parcheggio, dopodiché inizieranno verso le 10. Ma cosa sono, conduttore questi nomadi? No, negativo, campanetta. Ah, campanetta, sono rientrato. Ti piace questa radio già? Cappa. Anni. Cappa che mi piace. Che radio è? È sempre il 68, ma testato la senti, no? Va bene, devo avanzare. No, a me mi piace così. Ma non ho capito che microfono stai usando ancora. Ah, sono innamorato un altro, il MB4. E il Marazzino che cos'è? Ma l'ha un 68S. Ma è un MB4 modificato. No, niente di niente, no, così come, non ho modificato nulla. Passione a radio che ti fa bobo. Perché c'è la famosa quella radio. Aspetta che lo cerco. Ma se conosci qualcuno che lo sta vendendo, nuovo di zecca. Nuovo. Antonello. Tu? Antonello. Ehi, dimmi. Buonasera, abbiamo riconosciuto chi sono, sì. Spero di sì, Vera Rossa. Aspetta un po' così, tanto io per la rossa sono, ammazza sta leggenda, cazzo mangiano due zombie. Ho capito che sì, ma non mi ricordo il tuo nome attivo, scusami. Cino sono, mi, ma la reccia. Affanculo a mie, hai ragione, buonasera Leoncino. Dimmi una cosa, quanto ne vuoi per quell'apparecchio? Guarda, questo è stato pagato, l'ho ceduto 25, un 120, 130, ma non di più. E campa, là. Vabbè, se mi entrano i soldi in mano, lasciamo la carta che vengo e me lo ritiro. Ho comprato sotto un giorno, messa in casa da mio fratello e poi da cambe, nuovo. Tuo fratello non è stato usato. Ma che cosa? Compra, tu li prende, compra e mette da parte, come il computer, compra e mette da parte, compra, usa una settimana e mette lì, sempre così, è più forte di lui. Lui per una cosa non è che la sfruttano. Questo l'aveva comprato, quando stavo lavorando, quante, 3-4 mesi fa, 5 mesi fa neanche, fuori in montagna, no? E entrando a casa si è fermato l'autogrill, dove c'era di tutto, c'erano anche gli apparati, come ho visto a me che c'era sempre il baracchino, se l'ha comprato. Comprato, ho usato 2 giorni e messo dentro la scatola e l'ho buttato da una parte. Allora poi me l'ho preso io e ogni tanto lo uso. Non è costante, dai, c'è molta gente così. No, io se mi appassiono con una cosa mi fisso, mi documento, mi piace approfondire la cosa. Se mi fisso con tipo la fotografia, tutte queste cose qua, ho comprato enciclopedie, ho studiato, ho fatto, sino a quando proprio sai tutto. Lo so, poi ho fatto così, non mi ti dico, poi si è comprato un altro, buttato da parte, io non, e poi non lo senti più, e ho fatto così, se l'ha comprato da poco, neanche un mese fa, un alfaietto, non so, si è comprato, e mai usato, ho comprato e messo da parte di nuovo anche lì, a prendere, solamente polvere e basta, io non mi ti dico. No, la passione probabilmente. E vabbè dai, ne usufruisci tu. Alla fine, non sai che ancora sto aspettando il Galaxy. Non l'hai chiamato per vedere se è pronto. Io te l'ho detto, è un po' lungo, però poi già te lo va come si deve. Ascolta, come si chiama il modello Midland? Mida Alan 68S, però è stato modificato quello, ho fatto modificare. Lui nasce con 34 canali, adesso ne ha 40 e con le bande laterali però canali bassi. Devo mettere solamente i canali alti, devi comprare un pezzettino che costa 6 euro, il gioco è fatto, e c'è anche i canali alti. Se sono presente, dai, tanto cosa dice San Radio, e non pari, sembra un Milano, sembra una 48. E così si viene alla 68, perché è il 48. Più venduto, molto più richiesto della 48. Sì, quello è vero. Gianlu, come bene, il mio segnale della tua parte, com'è? Come, Antonio, scusa che sto mettendo le cuffie per la ricezione. Dimmi. Com'è il mio segnale dalle tue parti? 95910 radio 8 numero di Bussodì, radio più sopra del segnale, la radio più forte del segnale. Ma cos'è, non è compresa? No, va bene, abbastanza liscia. No, tu calluta una gallonata, tu devi sentire qua come ti ascolto io lì. Spare cosa di no per fare a me. Scusate. Posso chiedere un'informazione? Ci sarà una dritta, devo recuperare una scheda dei canali per un Intec 546, mi serve la scheda dei canali di 80 o 120, non la posso rimediare. O su internet, oppure bisogna chiedere a Roberto, lui ce li ha. Chi Roberto? Uguale, Intec, FM, Roberto quello che modifica. No, lascia perdere Roberto giù a Cagliari. E cosa sta dicendo che Gianni non se ne accorta, ha parlato sopra? Gli hanno escluso l'operativo, porto a Torres. Gianluca. Ah, ma io già sto dicendo a me già. Mi sembra che c'ho quella del 606 io. Dell'Inter che 120 canali sempre. Beh, ce l'hai tu. Dovrebbe essere quella che ho preso io, perché la radio ce l'ho. Ah, lei serve la scheda dei canali per minimo 80, ma anche se sono 120 va per lo stesso, per l'Intec FM 546. c'ha un difetto di un'altra cosa, però. Quella cosa lì dovrebbe essere a posto. Tutto il resto dovrebbe essere tutto regolare. Ma basta se la trovo dalla CBC Fusaro o qualche cosa del genere. Guarda, dovresti chiedere. Aspetta un secondino, io ho internet attaccato adesso qua, no? Allora si può fare subito già una ricerca anche qua, magari. Allora, mettiamo su eBay. Facciamo così, lo cerchiamo direttamente su eBay. Allora, nel 544 è così. Allora, che fa la grossa cortesia, dai, che devo fare un lavoro a quest'amico che deve partire in Corsica il 14 di agosto. E mi ha fatto, mi ha detto, se per cortesia si ha fatto piacere, questo qui è una persona, un meccanico che mi aiuta parecchio a buscare i pizzi di meccanica, di cose. Quindi quello posso contare a cambio. È 548 SX, FM 548 SX, della Intec. In camper o dei buoni? Come? In camper? No, in fuoristrada. Ho capito. Scheda. Canali. In. Ecco la cappa. 544 SX. SX. Ecco qua, allora, SX, sono pure un buccio. Allora, vediamo un po' cosa mi dice qua, mi... scheda, non ho trovato nessuna, sicuramente non bisogna scrivere qualche altra cosa. 120 deve scrivere, 120 non 20, 120. Sì, guarda che tu ce l'hai un amico, salve Lugo, può dare una mano per quella parte, ce l'hai un amico vicino, dove l'hai portata, dove portata a allinearti dopo ultimamente, quelle Raffaietto, che cosa era, ti ricordi? Lui ti può aiutare, quell'amico lì di Sassari, quello ti può aiutare, capito? Ho capito, vicino a casa mia, quello che mi aveva allineato mano laterale e coso. Non sapere se ero in grado di trovare la Sassari o se devo per forza ordinarla da fuori, perché mi sa tanto adesso, non so se arrivo, ma se faccio in tempo a piazzargliela per il 14, mi devo contraccambiare di molti favori grossi che mi ha fatto. Ed è quello, poche parole, che l'avevo dato il 747, che l'avevo messo il 747 nel fuoristrada, lui fa le gare col fuoristrada. Deve andare in Corsica e gli occorre e muove i canali. E io devo fare per forza, perché è un diritto. Capito? Che lui oggi si è fatto in quattro, anche oggi a buscarmi una testata di un Rap 500 diesel, non riusciamo a trovare da sua parte, ma l'ha trovata lui oggi. Ogni volta che gli chiedo cortesia, lui mi risolve sempre i problemi. Quindi è un amico a vero. Veramente un amico, e io non lo fare. Però non so se prima di andare a girare la ruota a Sassari volevo sapere se riuscivo, cioè se la trovavo, magari anche capito così, però nel radio ce l'ho io, quando vuoi, comprata, capito? Ma non è che la metti così facilmente sulla scheda, capito? Non è tanto semplice, deve cambiare tante componenti, tante cose, abbiamo provato un giorno qua e alla fine è costato di più. Capito, ha speso soldi con la scheda e poi ha dovuto mettere componenti a saldare, fare quello e quell'altro, tutto seguendo una prassi, una cosa, e poi a conti fatti ha dovuto buttare via tutto e mandarlo a farselo fare, e l'ho dovuto mettere, perché la scheda ormai non serviva più, gli ha dovuto mettere la scheda di 120 canali nuova e gli ha preso 30 euro perché è andata bene, 30 euro gli ha preso, gli ha messo la scheda nuova e 120 canali. Io l'avevo fatto una volta, l'avevo messa la scheda 80 canali o Gigi, l'avevo già messa in un apparecchio omologato, la scheda delle 80 canali con tutta la scheda passo per passo, e non è complicata come quella dell'Eco, quella che avevo messo, non è complicata così, fidati. No, poi bisogna dare linea, bisogna fare un sacco di cose, bisogna fare per tornare i canali. capito, se no non c'è nulla, no. Bisogna girare le trime, bisogna cambiare tanti componenti, un bel di componenti bisogna cambiare, capito, un bel di componenti. Hai trovato qualcosa su YouTube? L'ho presa a 6 euro, l'ho fatta ordinare, 6 euro la scheda, e l'ho messa nel 68, e il 68S che dice cosa? Che dice Antonello, nel Midra, e l'ho messo lì, nel 68. E me l'ha messa a coso Roberto rapido, però non ha cambiato il commutatore dei canali, ha lasciato quello del 68, l'ha forzato con la pinta come l'abbia forzato, però è identico al 48, perché va dall'1 al 40, corrisponde tutto quanto, sia nei canali normali, nei canali di sopra la stessa cosa, corrisponde dall'1 al 40, è sotto la stessa cosa, non so come abbia fatto, ha fatto dei ponticelli, dei vetri, senza togliere il commutatore del canale, non l'ha toccato, ha aggiunto altri fili, altre cose, è riuscito a fare, però l'ha fatto solo a me, a uno santotto che c'ho io, che c'era di Pierpaolo, mio figlio, l'ha fatto da poco, neanche un mese fa. Io pensavo che faceva 34 canali, solo invece lui mi ha fatto tutti i 40 canali, 120 canali mi ha fatto, in poche parole. Ciao Gigi, no, nulla, non do sotto quella voce, non do nulla con quella ricerca lì, sicuramente qualche cosa di bisogna scrivere diversamente oppure cercare su quello che altro sito. Ma se così ti vedi Gigino, ti convegni dalle managhide, per quella città lì, te la metto lì, te lo stalla e ce l'hai già pronto. Gigi, come ti sembra questa radio? Con Google lo dovevi cercare. Ciao Gigi. Con Google lo dovevi cercare, non su YouTube. Beh, no, YouTube no, YouTube gli ti fate vedere film. Io devo cercare se c'era qualcosa, non c'era nulla. Adesso lo vediamo di nuovo. Gigi, come ti sembra questa radio? Non sembra che vada bene, ascolto bene. Chiedumi, mi suggerisce. Vulcano! E a chi è l'altro? E io buonasera Antonio Barracuda, è poco contenta la signora per il nominativo che gli è affibbiato, Lo so, e dove sta Radio di Sole? Radio di Sole sta aprendo il fresco fuori che si sta dondolando nella sedia a dondolo fuori, che sta aprendo un pochettino di fresco, e ormai è Radio di Sole e nessuno glielo toglie. Positivo, e poi si sta bene come nominativo. Sì, quello sì, stranamente sembra che hai il settimo senso tu, Positivo. lo so, per come l'ha descritta, io ho visto un filmato, dai, te l'avevo detto quel fatto, e mi è venuto il nome, e mi è venuto subito quel nomignolo lì, capito? Una ragazza indiana era. Sì, era Radio di Sole, giustamente no, era Radio Subito Seguirmi, oppure era Radio di Luna. Una è Radio di Luna e questa è Radio di Sole. Gigi, che tu ce l'hai, insomma, che tu ce l'hai? Positivo. No, già vanno bene, dai, vi sto ascoltando tutti bene. Comunque, qualche apparatino ce l'ho anch'io, in vendita, qualche apparatino ce l'ho anch'io, sempre 40 canali, che non è il mio, è di un amico, sempre 40 canali comunque, ed è sempre un Intec che Intec è, Gianlu? Come si chiama il registrato? Quello 544 esiste. Capito, anche quello ci abbiamo, l'abbiamo messo in vendita. Ne ho ne uno, ne ho due o tre in vendita, e poi c'ho la Fayette, aspetta cos'è, l'MS, come si chiama, quello devo vedere, non so se lo conoscete, della Fayette. LMS 200. Quello lì, quello interessa a qualcuno. Ti prego contro lo sedan. Poi c'è tutte le bande laterali, c'ha tutto, canale sopra, conosce quell'apparatura? L'ho anche avuto, non so se conosci. L'ho anche avuto. Ti segna sino a 100 canali. Sì. sì. Questo è il nuovo, comprato in lire, non l'ha mai emesso, c'era un amico mio ed è dall'altro giorno che lo vuole dare, me lo vuole dare, anzi lo deve portare a provare, c'ha scatole e tutto, non l'ha mai messo in camion, non l'ha mai provato. E ti dico la verità, ce l'ha ancora scatolato questo qua, è dall'altro giorno che me lo sta proponendo, me lo vuole dare, però non so se è un ultimo apparato come sai già. È buonissimo l'apparato. Vanno di su a 150 euro. E a me me lo vuole dare 100 euro. 100 euro me lo vuole dare. Prendilo subito che è un buon apparato. Buon apparato. Oltre che, vabbè, il colore non mi piace perché rimane marrone invece che nero, il colore del coperchio va, si può verniciare. Rimangono marrone. Ha dei pomelli grossi, belli, manopole proprio belle, impugnabili bene perché sono belle grandi. Sì, ma è grande anche come la frase, infatti per lui dice non c'è un posto a mettere in cambio, cioè, nel camion allora no. Però la Luca Pulizzi Romagno gliel'ha già fatto, l'S9, l'ha trovato. E quello è grande quanto l'S9. Io guarda, a mio malincuore l'avevo venduto e poi mi sono mezzo pentito, perché quell'apparato lì. Si tratta tutto di aprirvi un po' la LC perché il radio dalla casa non esce fortissimo, ma poi tutto il resto c'ha vate, c'ha, insomma c'ha un bel canale, ma un bel, c'ha tutte le bande laterali, è un bellissimo apparato, io l'ho avuto e ti posso dire che fa molto bene. Positivo, poi c'ha l'Intec, un altro Intec cos'è pure, ma quello forse se lo ottiene. 500S. No, un altro più che c'ha i canali sopra, sotto, è un po' complesso anche quello lì. Paga. Vabbè, ma Marachina Giumbe, quello lì a me mi piace, se avessi avuto il posto mi avrei fatto una bacheca da mettere tutti in mostra, che quelli lì mi piacciono un bel, però l'MS200 è un baracchino con i cavoli quadrati. Positivo. E allora mi è stato un onore vedere a provarlo, visto la sproversazione, ma me lo vedo se poi la testa mi possa pure interessare. Comunque lo... No, me lo deve dare, se lo deve fare fuori, ha detto, se lo vuole fare fuori, tanto non l'ha mai operato, l'ha pagato 200, non so, 40.000 lire, 260 in lire, una cosa del genere, insomma, quando me l'ha detto, non l'ha pagato. Qua, su internet stavano 150 euro, se trova 100 euro piglialo perché il valore suo è 150, l'avevo preso anche 150, però in più c'è la linea 300 che avevo regalato a Walter. Perché? Perché eravamo su IB ed era praticamente in asta. Io non mi sono accorto che stava gareggiando Walter e gliel'ho fregato all'ultimo minuto. Ho detto, ma quando mi sei che fregato mi interessa per lineare più che l'apparato, però ho detto, quello ti interessa, te lo regalo. È positivo, comunque c'era un amico mio, ce l'ha dai, un amico mio e è da tanto che me lo vuole, anzi me lo deve dare, ce lo prove se riesce a farlo fuori, non se ne fa nulla lui. Facciamo, dicevo, il cavolo, cioè quel prezzo è come che è nuovo, perché non ha mai modulato e quindi è nuovo. E bisogna vedere se non avendo modulato per tanti anni, poi va bene, boh, anche quello. Ah, non modula quasi mai, e mi adesso sta modulando da quando entravano sempre con qualche baracchino, non l'ha avuto in passato, però... No, non l'ha mai messo, non l'ho mai visto con quell'apparato lì, non l'ha mai messo in camion. Ha messo l'S9, sì, ultimamente l'ho fatto comprare io l'S9 e ce l'ha sotto. Però anche oggi me l'ha detto, se riesco a farglielo pure quelle. Era tanto che me lo vuole portare, ce lo mette, lo provi, dice se interessa qualcuno. È nuovo perché lui non l'ha mai, l'ha provato e basta, non l'ha mai usato, se non trovi neanche un graffio e nulla, c'è ancora uno scontrino, 200 mi pare, 240-260 mila lire, quanto l'ho pagato, la scatola, tutto il microfono originato, quanto c'è? Allora, quell'apparecchio ti segna sino a 100 canali. Praticamente tu vai dall'1 al 100. Poi c'è tutte quante le bande e poi tutti quanti i canali sopra, sotto, eccetera, eccetera. Ma è omologato? No. Omologato? E tu devi metterti in testa che quelli sono apparecchi... con diciamo sofisticati, non possono essere omologati. Quando tu hai più di 100 canali non può essere omologato. Gli apparati omologati sono 40 canali. E vabbè, tieni presente l'8001 della Midland, quanti canali ha? L'8001 ne ha. No, ma arriva fino a 40 canali, attenzione. Arriva sempre in su a 40 canali, non va oltre, poi va in tante frequenze, però sempre a 40 arriva. Ah, sempre 40, vabbè, ero disinformato in quello, no, perché è abbastanza complesso come apparato, la verità, è molto, ne ha poco di pulsantini da schiacciare, credevo che ne va di più, con la scusa essendo omologato, capito, vabbè, come non detto. Allora Antonio, ti spiego. Questo apparato qua di cui sta parlando Gigi ha 100 canali per frequenza, capito? E ha 100 sotto, 100 sotto, 100 in FM, 100 in AM, 100 in SSB, 100 in USB, 100 in CV2. Invece Midland che stai dicendo tu ne ha 40 in AM, 40 in FM, 40 in SSB, hai capito come? E gli ha memorizzato. Io sarei proposto a prendermelo, già me lo piglio io. E adesso già me lo provo io qua, capito? Me lo provo io qua e... Quello, vedi, oh Antonè, tu hai detto 120, 130, ma lo sai quanto ce ne vorrebbero di alla 68 per prendere quelle, per pareggiare con quell'apparato lì? 4 o 5 ce ne voglio. Ah, la verità non me ne intendo di quelle, però la verità a volte di fare un giro su internet e vede un po' i prezzi di Midland, porca miseria, te li sparano, e come prezzi nuovi, mi soprano sempre delle apparecchiature nuove da negozio, te le fanno pagare. Sì, quello sì. No, perché a volte, vedi, io adesso, scusa, anche a me piacciono gli apparati, a me, insomma, a me non mi fidi in modulare con 68, con coso qua normale, no, perché c'è quei 34 canali e cosa, non mi va a me, mi va essere sì normale come sono con questo, normale di fatti, però che riesca ad andare un po' da tutte le parti, capito? Se voglio parlare posso andare qua da laterale, posso andare, ma sempre con pochi fatti con questo qua, e posso andare canali di sopra, posso andare quelli di sotto, capito? E quando uno se lo mette in stazione deve avere almeno un apparato del genere, non dico una cosa esagerata, ma almeno andare a avere un po' di canali, le bande laterali, i mezzi canali, queste cose qua, capito? Sì, quello sì. Vabbè, comunque ho notato, nei canali bassi non c'è mai nessuno, la verità, E io l'ho provato il 68 nei canali bassi e abbiamo fatto una prova e c'è molto, molto, ma molto bene. Tanto pare ancora più forte di com'è questa radio in AM. Però ho notato che non c'è mai nessuno, purtroppo non ne usa più nessuno di questi dei bassi, porca miseria. Non c'è quel remo, non c'è disturbo, la stazione è limpida. Però purtroppo ognuno si lascia stare in AM. È proprio quello il bello, quando ti vuoi appartare vengono di quei canali ti appartano. Ma quello già è vero. Mi sa che abbiamo messo un po' qualcuno in disparte, dai, che è rimasto in ruota per non essere maleducati. C'è Gianluca Giuseppe Antonio, vai Gianluca per far girare. Ehi, no, va tranquillo, per me non c'è problema, potete anche fare tutti i discorsi che volete, infatti lo ascolto ben volentieri. Quella 68 l'avevo sentito così, Gigi, hai visto come c'è bene? Ah, no, tu non hai sentito la 68, io non ce l'ho qua io. Io non ce l'ho qui a casa la 68, se no te l'avrei fatto ascoltare. E ci stava la 68 di quelli che c'è lui adesso, lo ascolta così perché... perché gli ha fatto un lavoretto con pugno, hai capito? Un lavoretto con pugno, esce così, ma l'area 68 escono tutti così, capito? Escono tutti così. Guarda che io ne ho alla 68, ne ho due, però tutte modificate a 120 canali, capito? Uno è completo di doppio modulatore, di scheda ecco e tutto quanto, i bitti, uno, e uno c'è solo il canale sopra e sotto del normale, però c'è una bomba, perché vanno bene, capito? Vanno bene, ma anche bene però. Lo dai, adesso quel 68, lo dai Alpino Radio Baccano, quello lì a Vorore, quello lì, tu non sei, tu una mosca a volare con quel 68 lì, ma cosa vuol dire una mosca a volare? Sembra che sia spento, muto, e la recensione è buona, e te lo fa arrivare sino, quello che avevo io normale, senza mettere nulla, arrivava a 18 watt, picchi arrivavano a 18 watt. Lavora lui sopra, sì. Quello lì, però gli cambia tutti questi dei fili, delle cose, li mette più veloci, schermate, e ti toglie tutte tutti i rumorini che c'hai, tutti, non senti più, lo senti silenzioso come cosa. Ce l'ha Pierpaolo in camion, amico, del 68, e ti dico che è una meraviglia, pare che prenda meno sbrattini degli altri pure. Fatto così, perché io gli ho dato quel 48 napoletano al giorno e non riusciva a capire niente in camion, andato a Cagliari. Pigliava a colpi tutte le parti, con quello che c'ha lui, che è un 68 fatto a 48, tutto schermato, tutto fatto con quei fili lì e poi. Sembra che prenda, le prende, però ne sente molto di meno, riesce a ricevere meglio e a sentire meno disturbi, meno dagli altri canali. Diciamo che alla fine diminuisce molto, diciamo, i disturbi generali alla fine, dai. Insomma, questo mi viene in mente la parola. Il QRM, diciamo, diminuisce un bel po' alla fine come disturbi. Sì, un bel QRM se lo elimina, Se lo elimina, un bel tutto il rumore ti elimina. Perché, beh, il QRM quando c'è, però sto dicendo, lo fa molto silenzioso come cosa, la recensione la senti bella pulita dopo, quando parlano, non li ascolti in mezzo al QRM, la senti molto più chiara, capito? Beh, così ci sono molti accorgimenti che uno non lo sa, è vero, alla fine c'è un pochettino di pratica, riesce a lavorarci. No, ma la verità, io ripeto, il mio primo Midland, il 44, mi sono trovato sempre bene. Diciamo, l'unica cosa dei Midland, sono buoni come apparato, solo che uso sempre la solita estetica, non ho mai cambiato. Sembra che siano andati sempre con lo stesso stampo, la verità. Però come apparati già funzionano bene, no, la verità, non mi posso lamentare. Io non ce l'ho il 44, io ce l'ho il 44 e Antone, ce l'ho il 44 della Midla, ce l'ho in macchina, quello che ho in macchina, è un 44 quello lì. Funziona bene, poi non c'è neanche di, sai, di quell'antidisturbo, io non. La verità non ne ho mai usato perché non senti il rumore dell'alternatore. Quando ho attaccato direttamente il cavo, lì sta sempre funzionando tranquillo, ho 18 anni, sempre andando. Quello c'è 40 canali però, invece 68 ne ha 34. Ah, così, quello 40 canali in AM e 40 in FM. E invece a me non mi senti, invece il mio va pure, non mi senti nel canale di sopra, io l'ho modificato, io gli ho messo anche c'è anche il canale sopra, questo lì, quello mio. Allora, quello mai toccato, come l'ho comprato è sempre così lindo, tu ci ha messo le mani addosso. Chiesto, non mi ci sono forti, arrivo fino a 40. Quale? 40. 68? No, il 68 di regola 40, 34. Adesso questo arriva a 40. Ma come è stato portato il commutatore? Ah no, ha fatto un lavoretto pompugno. Sicuramente gli ha fatto quel lavoro lì, tranquillo. Ah boh. Non sa più che canarie. Oh, è uno che è così. è forzato, è fino a 40. E 500 è se si poteva fare quel lavoro lì. Anche quelli lì già, non sto dicendo, né uno che è così. Sì, c'è una specie di aletta che blocca la strada. Tu quando lo forzi spacchi quell'aletta, ma rimane all'interno del commutatore quell'aletta lì. Ma è continua, arriva fino a 40. Sì, sì, è un blocco, dai, che sforzi spacchi. Ma cosa vuoi dire? Me l'aveva fatto un autista di Torino, che ci portava Pelatti, questa roba qua. E mi ha detto che ha visto l'antenna, no, ha cominciato a dire che ha barato c'è questo colore, ha detto ma l'hai fatto, c'è il 34 canali, se vuoi dice te lo faccio con più caro, ha detto no, io avevo paura, ha detto no, è nuovo nuovo, ma non te lo sfascio, non ti preoccupare, ha preso un fazzoletto, e ho messo questo fazzoletto, poi con la pinta, ma si sente un colpo, e poi c'erano tutti i canali sopra e tutti i canali in più. Sono un po' dispersi, Sì, sono doppi, se ne fa doppi, no. Bello che riuscì a farli. Allora, io ho 68, ne ho fatto parecchi, Giancarlo me li faceva, cambiava il codice, pigliava 20 euro. Giancarlo, 20 euro ti metteva il commutatore del 48, 40 canali, ce li avevi tutti precisi. 20 euro e ti metteva il 40 canali, Giancarlo, capito? Fa manco caro, Io costavo, te lo facevo, è tutto il lavoro. E che ne ho fatto, ne ho fatto. Poi bastava, se volevo solamente i canali sopra, se mi metteva 40 canali, se volevo solamente sopra 10 euro. Se io aggiungevo a questo quarto, 10 euro. Se io ho fatto il 44, un quarto aggiunto, al 44 che ho io. E c'ho 40 canali sopra. Aveva aggiunto un quarto, non so che cosa ha fatto, 10 euro, Giancarlo l'ha fatto, 10 euro. L'ha messo questo quarto che 10 euro l'ho pagato. E c'ho tutto 40 canali sopra. Intanto che se tu non fai nulla, non c'è nulla. Avanti Giuseppe. Giuseppe, non mi dici sì. Ora nei cucci, ripeto le coppiette. Giuseppe. Allora, avanti. Gianluca. Sì, Gian. La vicinanza si può fare tutto. Canti, ma sono qua qui già. Ma di sotto, effettivamente, se a meno che non sia il discorso perché questa sfera che ti mettono comprende anche quelli di sotto, non puoi fare anche a meno, ma se così ben venga. In certi apparati tu li puoi mettere, nel 68 va benissimo, puoi aggiungere un quarto e ti dai i canali tutti sopra, capito? Poi gli puoi mettere le 120, va bene lo stesso perché ce l'ho io il 120, però Giancarlo a me con i canali sopra 68 tanti anni ci vive, mi dava 10 euro, l'ho fatto a Piero Barone, quello di Ose, l'ho fatto a Ivano, 10 euro e ti metteva i canali sopra. Mettiamo, aggiungiamo un quarto, me l'ha fatto sul quel 44 che sta dicendo Antonello, a me mi ha preso 10 euro io, per mettermi 40 canali sopra, così c'ho il 45 canali sopra, capito? Poi io cosa ho fatto? Poi l'ho cambiato, lì c'è stato un passaggio tra Roberto e Giancarlo e mi è sparito il finale, il 1969, vado a modulare, ho controllato i fatti e non c'erano più fatti questo guarantino. Controllo il finale ed era il finale normale, noi avevamo prepotuto il finale, mi sono un po' incavolato, poi non sapevo se era Giancarlo, se era Roberto, più Roberto che Giancarlo, e niente, mi hanno, gli ho detto guarda che come ha mancato il finale, no, se l'ha preso Giancarlo mi ha pigliato Guido, poi pare mi ha cavato il 1969 il finale da 10 fatti. Dice parte che ne dava 18 quel baracchino di fatti, quando ce l'avevo che mi avevano regalato così, l'aveva fatto Sauro di Sisto. A questo mi aveva regalato un amico, avevo fatto delle cortesie e mi aveva regalato questo Daniele Mutricciano, si chiama. E me l'hanno potuto il finale. Io cosa ho fatto? Me lo sono rimesso, me l'ha messo Albino Radio Baccano. Portato dal vino e mi ha fatto mettere il finale 1969 nuovamente e dove mi ha fatto aggiungere un altro tasto e fa 4 watt e 10 watt di portante bianca, moduli arriva sui 15. Se vuoi fare un piacere a nessuno. Lo so, e poi poi ne avevo portato un altro e ne aveva due binari dentro questo baracchino, diciamo, per Santa Notte. Cazzo, lo modifica, lo fa, mette la scheda, ecco, quello e quell'altro, vado a controllare, boh, non vedrai più i due binari mancavano in Santa Santa Notte. E ma come mai che io te l'ho dato io normale che arrivava a 25 watt fini e avevano andato più a 25, era 25 di portante bianca, come mai sono stata solo a 9 watt di portante bianca? Fatta più a me, perché ho fatto delle modifiche, vedrai, così non deve salire oltre 9 watt e mezzo. Ah vabbè, vabbè. Ma le finali ve la via Ezra. Ma sono così ricercati questi finali gira. Non si trovano, ho mandato l'8001 io, l'8001 tutti li ho segnati, li ho tutti firmati. E la gente dice, beh dammi, non deve mancare il binare, quelli sono e quelli devono, gli ho fatto delle sigle, allora mi sono accorto che sì, perché ci devono rimanere sotto quei binari lì. E come fai a fidarti a questa gente qua, se ti figurare da cosa se la sei attenta? Ma cosa che si grida, si grida. Ma vabbè. Cosa vuoi fare? Gente onesta può capire niente. Ok dai signori, io vi saluto. Buonanotte a tutti in circolare. A me non lo dimentico nessuno. Ciao. Ciao, buonanotte. Avanti. Ciao, buonanotte. Ciao Anto, buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Come lo ripeto? Beh, se io lo sta chiamando Gigi Vulcano. Sento uno passo passo piccolino da poco fa, che chiama sotto, non so chi sia. Aspetta, fate un attimino in bianco, chi è che sta chiamando Gigi Vulcano? Chiamarlo tu già, che io sono passo passo qua. E anche io sono basso basso. Avanti chi chiama, aspetta un attimino, avanti. Avanti chi chiama Gigi Vulcano? Io non sento nessuno. Chi chiama Gigi Vulcano? Avanti piacere da Gigi Vulcano, l'originale. Piacere ascoltato. Minchia, ma cosa c'hai? Due pezzi di carta nel naso, che modulazione brutta. Anche io sento una piccola portante, però è coperta al QRM ed è molto bassa. Ti ho dato una scocciolata un attimino. Ma stai mangiando? Se la poco fa gnam, ti stai mangiando un gelato. Poi di volte ho sentito chiaro che chiamava, ma lontano che chiamava Gigi Vulcano. Ma il Gigetto? Si è fatto un attimo di bianco, lo sto ascoltando anch'io adesso. Avanti chi chiama Gigi. Si sente che parla ma non si capisce cosa dice. Ma sai, forse è Domenico Tardanetto, chissà. Attento, Tardanetto, tu sì. Domenico, tu sì. Domenico Zanari. Tardanetto. Non lo sento più. Ho sentito per un po' poi non ho più sentito. A chi tocca? Antonello, avanti. E niente, anche io sentivo poco e niente, poi c'è andato, c'è un bel po' di QRM. Cosa vuoi che ti dica? Adesso non mi viene niente in mente, aspettiamo che me lo sistemi questo apparato. Camisè, se ti fidi da questa settimana fa un mese, ancora no, niente da fare. L'ho chiamato, dice che se ce la faceva questa settimana, però boh, domani è giovedì, ma nessuna chiamata. Ascolta, ma se l'hai mandato fuori o a Tonè? No, l'ho portato da Vittorio a Sassari, non so se lo conosci. No, di presenza no, forse si fa la radio. Ehi, esatto, come fa? Giove, giusto? Giove. Giove, sì. Ma ho capito, ma il Galaxy dici? Ehi, a dargli uno schiaffo morale, là, per rimetterlo, diciamo, funziona, perché funziona. Però l'ho portato per dare una bella revisionata, perché la verità mi piace, come apparato. Che cavolo se va bene? No, magari quel potenziometro, magari c'era il potenziometro, no? Te lo stava più facendo quel coso del LED? No, quello era a posto, è bastato una passata di aria compressa e un po' di, come si chiama, reviva circuito, non l'ha più fatto. Tutto così, ma l'ho portato per dare una revisionata generale, dai. controllarlo un pochettino, un po' da tutte le parti, tutto lì, per essere perfettamente funzionante. Sì, dai, per dargli una... Alla fine uno schiaffo male, perfetto come esce da fabbrica. Sto aspettando, siccome questo c'ha molto lavoro, e dunque bisogna aspettare un pochettino, però ho parato molto bene due, dunque sono fiducioso, dai, il giorno che mi chiama, a ritirarmelo. Ah sì, dai, giorno più, giorno meno. Figurati, io ce l'ho già un mezzetto e mezzo, quella radio lì fuori. Sono pure due mesi. Beh, resti da metà più. E quello che ho detto, infatti da parte ce li ha. Può usare anche gli altri, anche se magari ha nostalgia di vedere come funziona quello, lo capisco. E più che altro ti vero buco, beh. Ma ci rubiondo, non verrà chi su vero biondo. Ascolta, beh, il prezzo molto ti è uscito come, come riparazione. Una cazzata. Ma è meglio così, dai, alla fine viene più spese di spedizione che non riparazione, dai. No, no, già c'è più, ma è compreso tutto. Una stupidata, ma era tutto riallineato, neanche 100 euro. Buono, sono contento, dai. No, perché da minimo secondo me è passato più di un mese e mezzo dal giorno che avevo sentito che l'hai rispedito da questo Carlo Bianconi, e ancora niente. Adesso vediamo un po', dai. Sì, ma quello mi caccia solo il mio, figurati. Oia, dopo fa anche dei lavori fuori, a quanto ho capito, perché una volta l'ho telefonato e non c'era, ho telefonato due e non rispondo, ed era una settimana in Germania, non so per che cosa, mi stava raccontando che, no, ma è cavolo, l'ho nominato e io sentivo un bel radiatore chiacchierare di lui. Che buono, sono contento, anche di questo lo stesso già è... Un tipo che ne sa, ma se lo senti come parli rimani a bocca aperta, perché non sai dove girarti, tutte le tecniche che usa, cosa deve fare, cosa deve fare all'apparato. Dunque, sono contento, dai, che qualcuno mi ha dato il consiglio di portarlo lì, non faccio il nome. Che fallo, dai. No, questa è una cosa segreta. Sei in ascolto, dai, già penso che sia contento. Sì, dai, fallo, dai. No, se si fa avanti lui. Vai avanti tu, che a me mi viene da ridere. Sono io quel disgraziato che sto mandando tutti quanti i clienti a Vittoria. Avanti tu, che a me mi viene da ridere, il mio Panfi. Zitto tu, piccolo Celentano. Ma te? Pochi ce ne sono, c'è Vittorio, le poste Adriano. Ma che cosa mi, anche quello di Ittiri mi, solo che così così, però anche quei Gianni di Ittiri già le sa fare le cose, solo che non neanche più sentito se questo Gianni prima tra te a sempre, amico di Gianni doppio Ru, anche quello è sparito, non si è più sentito. Amico mio. Non è amico tuo già. Io non lo conosco nemmeno io, non lo conosco, lo dico solo in radio. E il signor amico mio, io ci parlavo così, ma dopo alla fine, quando lo sentivo, giravo calare perché stava a trovare a parlare. Sì, perché ha toccato cose che non doveva toccare, ha detto cose che non doveva dire, dai. Sono successi dei problemi? No, sono cose... Acqua passata questa ormai. Okay, ma è da molto senza modulare. Ci sarà buono un annetto, vero? Gigi. Noi l'ho sentito un mesetto fa io circa, e avevo provato una cosa. No, di più sa di un paio di mesi fa. L'avevo ritirato un lineare da cosa, da Roberto, l'ho fatto modificare. Stavo facendo la prova a casa. Ho sentito un entrato. Ma i stesi partende, mi si tratterende tutto sul canale, ma i stesi trattende, sta appunto giusta. Aspetta un attimino, Gigi, che c'è qualcuno che sta chiamando. Avanti chi chiama la frequenza. Italia, Nord, Sardegna, che fa chiamata, cambio. Sono spagnoli a me. Uno da cosa era, da come si chiama? quel paese che c'è sotto Macomelli, stava chiamando. L'ha detto in quel paese sotto Macomelli. Porticale era, uno da Porticale. Adesso mi sto facendo ricordare a Pinaggio, la forse. Ma perché tu mica sta chiamando Portigali, questa cosa era? Era la Spagna, non mi ricordo che città è, si assomigliava alla parola, mi Portigali c'è. Portogallo era, Portogallo, e lui Portogallo. Poco cacito dalla cicchetti che non letto, sono contro la letto alla risata. Era Portogallo e lui Portogallo. Era Portogallo. Che vabbè. Caspita. Ci siamo fatti tutte quelle risate il giorno, quindi sta chiamando Portogallo. Che lui si è sentito, ma poi si è sentito da qualcuno che non sta tanto bene. Me l'ho sentito in radio da poco, che qualcuno l'ha cercato, dice ma non si è sentito, il momento non stava tanto bene. Qualcuno mi pare lo si... perché prima entrava sempre anche la mattina presto, a volte lo sentivo quando, perché da Alghero arrivava bene lì a Campera, verso Macomè, e ci arrivava più forte lì che qua a Sassari. E la mattina presto, quando io salivo a Cagliari, a cosa lo entrava sempre a salutare la mattina. E poi, come da tanto tempo non lo sento più. No, della verità, un mesetto fa è entrato, vicino, mi sembra, chi è che c'era? Sta parlando con qualcuno di voi. Circa un mesetto, forse con Giampaolo, forse. Non mi ricordo, con qualcuno, forse del produttore se fosse parlando, c'era qualcuno altro. Un mesetto fa l'ho sentito. No, io da tanto che non lo sento, l'ultima volta che siamo andati c'era il fuoco di Sant'Antonio e ha detto che è una cosa contagiosa, non vi avvicinate molte cose, infatti noi abbiamo tagliato subito perché ha detto che era molto fastidiosa questa cosa qua, eccetera, eccetera. Ma come ce l'aveva? No. Ma non ce l'aveva i piedi, no? Mi pare di sì. Sì, è vero, perché un giorno è venuto a trovarmi, stavo scaricando, si è avvicinato, è venuto con le ciabatte, era l'inverno, in cassetta in ciabatte, in casa un po' invernale, che sembra più vicinoso pure il giorno. E cos'è questa cosa già? Il fuoco a Sant'Antonio è una malattia che brucia le ribelli e dove ti attacca ti brucia da morire. Adesso... è una vecchia malattia, il fuoco di Sant'Antonio, sì. Però quanto sì, si può curare. Sì, è un'infiammazione. Devi prendere gli antinfiammatori e cosa, perché dove ti colpisce, dice che fa un male che è irresistibile. Io già è vero. Vabbè, io ti saluto che mi devo stare presto domani. Vi auguro buonanotte, buon proseguimento, ci sentiamo tutti a domani, dai, buon divertimento, a domani. Ciao Antone, buonanotte, ma che non devi andare perché? Domani. Alle 6. Allora ecco, vai curicati subito. Io mi devo alzare alle 4, lo devo fare. Mi sono già alzato stamattina alle 4, io alle 4 mi devo alzare, cosa devo fare? Andare a curicarmi subito adesso. Lo so, però c'è lavoro. Lo so, bisogna valutare anche il lavoro che uno fa, se stressa oppure no, non fisicamente ma mentalmente. E ci sono anche queste cose da valutare. E perché io lavoro con la mente, con la vista, con tutto il lavoro io. Oggi io sono andato, prima stamattina sono andato presto, alle 6 mi sono caricato il diritto, mi sono caricato io il rimorchio, il pomice, poi sono andato a Pula, giù in fondo proprio a Pula, lì in fondo sono andato a scaricare, capito? Poi sono andato a Sola Russa, ho ricaricato lì e ho scaricato stasera a Pula Torre, a qua a 80. In Sola Russa pure? Da? In Sola Russa è fatto Gigi? Sola Russa, non l'Isola Rossa, Pula e dopo Cagliari. Sola Russa, non l'Isola Rossa, Sola Russa è lì vicino a Oristano. Ah ecco, ho capito, no, sì, lo so dove è Pula, Santa Margherita di Pula, lo so. Non ho capito Sola Russa, non ho capito l'Isola Rossa. Sì, non ho Rissanese. Del break registrato viene avanti. E questo Palmerio. Adesso stai andando Olbia adesso. Adesso ho fatto il primo viaggio e adesso vado e faccio il secondo, capito? Abbracciala. Tutto di notte. Bartolini? Lo fa facciamo Palmerio, cosa fai Bartolini? Cavolo! Ma vieni deposito qua? A Porta Torres? Tu sei cattivo voce, mi hai visto a me un periodo buono che viene alla guacchia? Luca! Ma di notte solo, ah sì è vero, sì, ma adesso non ci sono più io. Però io c'ero anche il periodo che se tu c'eri Palme, quando faccio per anche di giorno. Palme, negativo, ero già, allora io sono andato via da quella ditta nel 2009, 7, aprile 2009. Tu non c'eri ancora? Noi. Ho capito, no, allora non ci siamo conosciuti, là. Ecco, ma io me l'ho già immaginata, appena mi hai detto l'orario, ho detto questo fa Bartolini, certo? Abbia si risolvo le cose. Dopo non mi ricordo il nome, ricordo, aspetta che se me lo ricordo. Ma se sta riposando in lui. So se c'è ancora. Ancora riposato che sì, un po'. Buonasera. Posato la cosa la deve fare per forza, quella deve fare come l'ho fatta io oggi. Però è uno stress, però e lui prenota Olbia, rimane da Olbia meno, torna rimane per aspettare la nave così positivo rimarrà tutta la notte e farà movimentazione pure lì e domani buono solo me zona Olbia Giampaolo avanti Giampaolo cosa c'è meglio per si rispondi Giampaolo. Scusate, mi sentite, no? Ehi, Luca. Sentite per caso? Ehi, Luca, ciao Luca, che ti ascoltiamo. Ehi, Luca, come no? Ho voglia. Ah, voglia. Ciao Gianluca, e beh, Luigi Vulcano, fratello grande. Ciao Gianni, ciao a tutti. Ciao, ciao. Luca, mi stanno crescendo sempre i baffi, sempre più bianchi. Ogni anno che passa sono più bianchi. Ho guardato da 5 anni a questa parte, 5 anni fa ce l'avevo ancora neri. E adesso sono diventati bianchi. Cosa devo fare? La barba adesso fa poco e dopo a Natale fai Babbo Natale, Gigi. Meglio lui, meglio, perché così sai che stai invecchiando, no? Non c'è quando non invecchia uno. Meglio così, no? Ma sei contento? Quella è la salute, non te ne frega poi. Se non è tutto bianco, e perché te? Positivo, positivo. Allora il prossimo anno me ritaglio, dai. Al prossimo anno me ritaglio. Del tutto. Sì, sì, quando, perché se sennò no, quest'anno sono andati lì a qualcosa, a quel raduno. Quando aveva baciato in bocca c'avevo i baffi, capito Daniele prima. Allora gli ho detto il prossimo anno per il taglio così mi faccia meglio. Che schifo. Non avete visto il filmato? Guarda il filmato che sta baciando in bocca. È arrivato e ha baciato in bocca. Guarda il filmato. Che sarola. Non è più piatto. Sono tutti rimasti impiacciati di lo gamberone, gli altri stavo mangiando l'oratta io. Controviaio deve essere questo posto. Tu che Daniele Primula che è stato così, capito? Quando c'è, perché con gli altri no, con me che c'è confidenza, capito? Gli altri non si permettevano e non riconosceva. Con me venivo che tanto mi toccava l'uccello. Però lo faceva con me, non con gli altri. E vabbè. E di dov'è Primula? Di Ciliano. Ma dimmi da Cidro, ma era una vita biella, adesso è rientrato nuovamente qui in Sardegna. Ma ci conosciamo un sacco d'anni con Daniele. Sì, mi stai un attimino preoccupando. Cazzarola, per me è preoccupato Gigi. E non hai visto il filmato Non so se c'è la foto, qualche foto è filmato pure. No, è filmato c'è, l'ho visto. La verità sono un po' che non entro più perché sono un po' impegnato in questo periodo, ma se capita domani, dopo domani, provo a vedere, provo a guardare. Ciao Luca, parli adesso che apparato stai usando? Tanto. Ma si può? Avanti. Stavo facendo cosa qua. Ciao Luca. Volevo salutare a Palmerio. Palmerio. E tanto, dove andiamo? Tutto a posto. Ma mi hai riconosciuto? Sì, Antonio. KM, stavo facendo qualcosa adesso torno a richiudere, ho sentito a farmi dove adesso passo a salutarlo. Ok dai, buonanotte a tutti, dai, io ritorno in quel Rix perché sono molto indaffarato, devo fare un sacco di cose, comunque vi ascolto volentieri, dai, buonanotte a tutti. Ciao. Ciao. No, forse Palmi non è quello di Pirata, quello mi sembra quello di Sabatino, quello l'ultimo, no? No, è proprio quello di Pirata, è quello di Nicola Pirata. Caparroce, lei così, perché quello di Sabatino è diverso. Perché gira male? No, gira bene, è bella anche la radio, è casa di Nicola Pirata, no, va bene. Ciao a tu, buon riposo, a domani, ciao. Ma tu devi avere mollato l'aggiunto. Cappagatto. C'era... chi è rimasto in parcheggio? Giuseppe? Laura è fatto entrare già. Cazzo, sono mezz'ora io qua aspettando farmi entrare. Ve ne scordate degli amici voi. Ah, quello DJ. Ma Giuseppe, tu sai come faccio io? Come faccio da te perché sono abituato nel canale 45 io e mi frega, e quello mi frega parecchio perché nel 45 non chiedo non brecca nessuno, entra nel boom. Invece in questi canali qua come regola bisognerebbe prima di entrare chiedere il break, però io sono, forse perché sono abituato, sono un camionaro, sono un camionista, se lo dico, e entriamo senza chiedere il break lo possiamo fare anche per chiedere qualche informazione, ma solitamente entro se ne avete notato io entro sempre così, no, capito, e così dovresti fare tu, invece se tu sei zitto, perché sai cosa tu sembra così Giuseppe. Noi siamo un po', abbiamo già una certa età, capite? Siamo un po' rincoglioniti e non ci ricordiamo di tutti quelli che ci sono in corso, capite? Se tu ogni tanto non ti fai sentire, devi far entrare tu, capito? E fatti sentire ogni tanto. L'unico che non è rincoglionito sono io perché non sono ricordato. Ma io lo sapevo che tu dicevi questo, guarda. Buon coso del sindaco di Provano. Sì, con Daniele Primo l'hai toccato l'uccello, stai ancora peggio. Ma mi sei fatto baciare anche in bocca. Perché a lui c'è poco da toccare, me. Ha toccato la prima volta, mi dice la cosa da toccare e continuava sempre. Ma anche tu a cosa ci questo con i maschietti, No, è bello che ti è andato con le magliette, no? Io ho bondato un po' con la misura e ti dico, me ne sentivo fino i pantaloncini corti, me ne farà vedere da giosto, in bagno a piscere, se non mi tiro sulla maglietta, è perché è lunga con la maglietta, bisogna che me la mantenga insomma, se no, scappate me da vicino culo. Sono uscito, ho detto, Daniele, siccome anche lui è piccolino, e poi la maglietta, ho detto, stai a te, sta andando in bagno, ho detto, portati sulla maglietta perché sennò te la piscimi. Ho detto, tiratela su. Oi, oi, oi, per carità, questo... Fatelo una buona, buon proseguo e tutte le migliori. Palmeduccio vi ha salutato, ciao. Ciao Palmito, buona continuazione di trabacco, dai, buon viaggio. Piano che c'è molto traffico, mi Palmito, piano, eh. Poi a quest'ora, grazie a Dio, già è poco e nulla. A domani, ciao. Palmi, dai, fate buon prosieguo, dai. Non so quando rientri, Palmi. Ma ci si vuole domani mattina, ci si vuole domani mattina, siamo alla maison. Ah, domani mattina? Capo. Non reputaggi niente, non so che sei troppo. Vista del camionare, oltre le macchine. Lascia peggio una, peggio del diavolo voi camionisti. Sì, così è. Così è. Ma a te cos'è? Che noi camionisti giriamo, no? E girando ci porta a conoscere molta gente, capito? Invece per esempio se lavori in zona qua, adesso per esempio anche Gianni è a contatto con molta gente, però sempre in zona diciamo della provincia di Sassari, in quella zona di qua di Porto Torres e di Zorni, invece noi giriamo tutta la Sardegna, andiamo a tutte le parti, conosciamo gente col baracchino che parla, che cosa, il camion, quello e quell'altro, e conosciamo un po' tutti. Ci riusciamo a conoscere un po' tutti, capito? E ci abbiamo in tanti anni che sto facendo questo lavoro, per forza conosco in tutta la Sardegna di gente, perché giro, vado nei depositi, vado dove c'erano una volta, adesso non stiamo facendo più per la divisita, avevamo tutti i supermercati, tutte queste cose, e conoscevi gente, dai, e conosci la gente, capito? E ti porta a conoscere un po' di gente, capito? Va bene, è bello conoscere tanta gente, almeno ci distrae e tutto quanto. Comunque avevi torto su quella questione là che ti avevo chiesto, oggi c'è. Cosa avevo torto? Ti ricordi che io ti avevo chiesto quel favore famoso, se avevi visto quella questione là, che tu mi hai detto ormai l'hanno fatta a pizzi, sì, domani. Molto amici, ci hanno rubato la parte. Beh, cosa l'hai trovata? Cappa, sai chi l'ha ritrovata, chi l'ha vista lì? Passando, stava andando a fare un viaggio, vena bianca, compare mi. Paoletto l'ho vista. Sì, Paoletto, dove sei dove? A Siligo. Siligo dove? Sai che vira una moto, aspetta. No, dove l'ha vista a Siligo? È una campagna, era buttata lì, in una campagna. Ha avvisato subito i carabinieri, perché lo vedete compare, no? Ha detto compare, se vedete questa moto, avvisate subito i carabinieri. Ha avvisato, sono andati, e i carabinieri si devono avvisato a quelli di Sassari. E quelli di Sassari hanno avvisato a noi. È positivo, positivo. Ma sai che io manco me la mettevo più della moto, Giuseppe. Cazzo, no, a Santa Maria Pisa, qua, sta girando lì, sì, tu mai, cazzo, la moto era Siligo, cazzo, la bagaccia loro, cazzo. Non è bisogno per viaggiare, basta. Per rientrare al paese, e questo era anche uno, a quanto abbiamo capito, era un tossico. Ciao Giampa, salutando stai. Ecco, Giampaolo, stavo giù. Mia Gianluca Redel. Giampaolo, Giampaolo, la vedete dormito però. Era zognendi. Sì. Che ha detto? Questo cavolo, papà. Cosa ha detto? La prende la scimmia. Saluta a tutti comunque, no, perché in zona orizzontale adesso sicuramente non non lo sentireste bene, dai. Avvio. Stava seguendo un film, saluto a tutti comunque. Capri, già ho sentito, c'è già un po'. Non fa. Occhio al gatto, eh. Ai. Oh, caro, caro. Occhio al prezzo. Te lo immagini se, se ci sta ascoltando e rientro. Ma lì. E ti fa fare il gioco della calzetta. L'altro che ce n'è un altro modulava ad Alghero, coso Carlo, no, carità, Carlo era. Quello che modulava ad Alghero, Carlo Pizzano, no. Carità, Carlo, chi era quello di Alghero? Era Pizzano, la Bussidore. Lui è molto, diciamo. No, Falcone era. Carlo Falcone, come si chiama? Alghero modulava Cona, Cona, di Alghero. Di Alghero. Poi c'era. C'era Pinangelo, Angelo, e poi c'era un altro che non ricordo come si chiama, che aveva il Pinwood, però c'aveva un attimino di cavolo. Carmelo. Carmelo. Cappa, Carmelo. Modulava anche lui che c'ha il cable a casa sua, con la Mantova 5. Non era di Mantova, l'ho visto. C'era quell'altro, la Storm 27, mi sa. Era uno che era amico d'Angelina, veramente, di Radio Fantasma, avevo fatto il zappio Radio Fantasma, di Angelino, te ricordi? Come si chiamava quello lì? Angelino? No, comunque andava Angelino, si andava da questo qua, gli faceva qualche lavoretto, qualche cosa. Chi si doveva dire? Come si chiamava quello di Alghero? Ah, è vero, col tecnico, è vero. Adesso mi portarlo, ma Carlo mi pare, è vero, ragione, faceva il tecnico. Carlo, vero, Carlo era chi? Carlo, non era Carlo. Carlo, non mi ricordo cosa però. Nemmeno io, non me lo ricordo, è troppo tempo passato. Cona di Alghero. Non si è più sentito fa il tecnico lo stesso. Non si è più sentito, solo che lui è il tecnico informatico. Falcone era cognato, no, il cognato di coso di Attila è Falcone. Quello di Sittili è Falcone, cognato di Tonino Attila. Falcone. Sono presente chiese. Ma glielo conosco io, faceva anche il camionista, è venuto un paio di volte qua da me, qua a casa, è venuto un paio di volte, si chiama Tonino, era Falcone, il cognato di Tonino, e non so se di Utili, anche lui di Utili, Falcone, e a volte è entrato al baracchino, tante volte è entrato, ha parlato anche con me, con Gio Maria, vedi Utili, Falcone, ed è cognato, può compare. Ma sono cose, compare o cognato di Tonino Attila? No, non me lo ricordo, non vorrei insistere ma non me lo ricordo. Non ce l'ho presente per me. Chi è rimasto? Chi deve entrare all'altra? Chi è rimasto? Gianluca, forse. Io e tu e Gianluca, così. Sì, se n'è andato Antonio, cosa salutato, ma Massimo, Massimiliano cosa ha fatto? Chi è Massimiliano? No, scusa Massimiliano, Antonello. Antonello è andato via. Allora tu l'abbiamo salutato, che allora siamo noi tre. Siamo rimasti in tre. Tre briganti e tre somari sulla strada lunga lunga di Giurgenti. Ma Cantino è diventato Gianluca a quest'ora di Bido, ma Bido è Gianluca. No, cosa uso a fare in luce? Insomma sono qui, cosa? Oggi allora giù Bido, ma stasera prima di venire a cena mi sono passato un attimino un amico al circolo, cioè io devo montare roba, tutto la latte, metto un bicchiere di birra, dopo è entrato di tacco, e la via giappuce, e ha subito due o tre bicchieri di birra, di quelli non so se ho presente il bicchiere quello dell'amaro, quello che rimane sottile, che è di vetro grosso, chissà non sarà manco una, non è neanche una 0,10 mi pare che sia, non so, 0,20. C'è quel circolo lì via, via, no per Pini, cos'è questa via? La via, via, via, ero da Giordo, caricando, e più a Danzi per rubare, per rubare più a Danzi. E beh, un circolo, aspetta se già messo, la Pecora, poi c'è la Pecora, una cosa del genere. E in via Emilio Russo. E passa, via Emilio Russo, se senti qui. Stavo scaricando da coso, da Giotto. E sono entrato a... prendiamo un caffè, una cosa, un manzano, sono entrato. C'è questa ragazza, mi ha detto che... mi ha detto, sono tesserato, mi ha detto. Sì, anche il circolo vuole risolvere serate. E beh, cosa è successo? Non te l'ha fatto la vita? Ma poteva... me l'avevi a fianco, c'ho un coso, l'ho parcheggiato, me l'hai carichente, me l'ha pure un racco, pure la gru. Ma ho detto, ma me l'ha racco qua, ma allora vado all'altro re. E poi me l'ha fatto il caffè. In primo momento mi ha detto che non pure io che devo essere tesserato per... E cosa stesso lo faccio, sto scaricando qua, no, però ci sono, non ci sono più qua, sono di passaggio io. Vabbè, se non si può, vado... No, lei ci ha mandato l'idea di entrare, niente, se era buono un caffè, anche il circo e il caffè non esce tanto buono, capito? Stavo quasi per andare al mare, sono entrato, tanto invece ci voglio portare le mani in chibi, e mi ha detto che era solo tesserato. Vabbè sì, certi circoli tanto quanto, ma ci sono circoli che vanno delle macchinette che se ne fottono di trovare, eh? Positivo. E vabbè, ma poi me ne andate tranquillo e me l'ha fatto lo caffè. E mi ha dato una presa in chi vedete, no. No, beh, se ne sono problemi, io pensavo. Vabbè, io sono tutti in traziani, quando mai tutti i casi tesserati? Io sono tutti in traziani, sciani, e si sgattire, in chivia, quando mai sono tutti tesserati? Ma è vero, ma dove vai allora? No, non assai, no, era chiuso, però, era una persona vera dentro che sono entrato, so cos'era che travagliavo della zona di chivia, però ci metto ogni tanto arriviani e tra zia le dici da te travagliavano in chivi di prese, sono messo tutti i barattini, sono tutte vendite in bianchine e cose, giusto di tra zia era gruppo a tre. Beh certo, ma cosa cazzo deve essere a Isi, ci non ha nessuno. Abbiamo immatricato la testa, mi giovere in chivi pure, era sempre affacciata a fare tempi, quando ero parcheggiente, quando ero vende. Sono entrato, ma già io sto finito un caffè, era chiuso, mi ero 6,5, 7,5 era. No, ha visto che dava più di lutto era, spesso lutto così, ha visto che ha c'è stato poi dopo. E poi ci ho mandato in centro, mi ha detto, ma no, che è buono, non fate lo caffè, così. Ma gli ho detto, ma c'è centro, entri, no. Sono andati se no più in fondo per rubarle, la trovare. E mi ha detto, no, non possiamo, ci bisogna essere tesserati. Aspetta, io non ho detto. Al bar Carpidi. Sono entrato nuovo che in bar, ti lamenti? A noi? Ti lamenti che ricarichi nel Salvatore, nel De Palmas? Sì, è vero, hai ragione, siamo andati, che ero più in Danazzi del Palmas, del Palmas della Traversa più tardi, più in Danazzi, più da Roma quasi. Esatto, tu eri carichendo in via dove ruba l'ufficio, in via Comini, che mamma metto mai San Via, ma ci diciamo. Sei chi sta via Pertini, mi vedo uno in via Pertini. Sì, già ho capito. Beh, via, me la giuricita, mi pare proprio chi se la vede, chi se la vede, via Emilio Russo, forse in via, questo è Sandro Pertini, forse chi sta, Via Granche. Via Granche. Non vede Salento, la traversa, la Granera, la seconda, non chi sei fatto la curva, o chi sei fatto la curva che entrambe, la prima, o no per me. Sì, ma siamo scelte attorno alla cincana. Pompieri era, no? Ma è sbagliato mi sa. Tu sei pompieri via Rettino? Te ne sarà che Dio, che via era, chi sei? Se la raga però la via. Sì, mi ammetto, la arriva la panetteria di Giacomini. Se la faccio in destra, la faccio in sopra a Bulu, mi pare. ha girato pure sopra la macchina, era un po' chiamato, ma c'è detto dove è stato. Dove pare sia via Grasci, quella? Via Grasci. Tempo fa, un paio di chiedi là, a Cappuccini, alla chiesa dei Cappuccini, al piazzale dei Cappuccini, sono andato, ho portato il primo remolchio, poi ne ha cacciato un altro, ne ha bruciato due, e io mi sono detto cazzato, dopo ne ha pigliato un altro, ha portato tre remolchi alla chiesa dei Cappuccini. E che ha sofferto? Ma Ferrara non ha gru, la gru io direi che c'era, ha fatto il conservatore. Sì, ma hai fatto un percorso dei vigili urbani da rispettare e pensava che sono assicurato un percorso che ne hai fatto essi, boh. Io mi sono giambato, me lo sono cambiato, sono fatto, è salito la scorsa Trinità, tranquillo, viene Umberto, ha giugirato, ha sopra tutto, questo contro mano, mi sento piazzare la Ida, il più ricco. Non c'era niente, è tutto lì per la chiesa, piazzale che l'ha trascennato, ma c'è indietro, è girato il rimorchio e metto ma c'è indietro. Sganciato, riuscito, è andato, ho preso l'altro e fatto lo stesso lavoro. Ora dritto in corso Trinitario, a fianco al mercato, via Lumberto, la prima terraletta a sinistra, dritto, suonavo le trombe, andai a rimettere, lì andavo, ho messo il senso da contromano, a sopra. Per caricare la luce mi sono tre rimorchi. Tre rimorchi sono voluti. Se puoi immaginare, i blocchi che c'erano in cemento erano 450 quintali. 450 quintali di blocchi in cemento c'erano. I pezzi che c'erano sopra in alto e quelli che c'erano nella parte di sotto. Blocchi da 25 quintali l'uno. Per i contrappesi della Russia, no? Da 55 quintali l'uno erano i contrappesi. È grande quella luna, non è che sia piccola. Quando col monastero la foto io. E tu avete veduto i blocchi sotto, te l'hai divisi in tre rimorchi, no? 400 quintali di blocchi l'hai divisi in tre rimorchi, capito? Oh, 400 quintali più già tutte le altre pezze di cose della gru da puli sopra, hai compreso? Ci volevano tre rimorchi per forza e sembrano così quando è dritta ma tutto nella faccia a terra e si pensi che si cose fatte sono lunghi e messi sono da 10 metri sono 10-11 metri il cuore l'hanno tutta smontata e caricata tutto un giorno l'hanno fatto caricato sui rimorchi poi c'è il braccio più il piantone il braccio è lungo. Longo, se lo vedete, ho trovato caricato la foglia che mi dimone di dire, sembra così quando è aperta, ma è lunga, quando si deve smontare prende spazio per quella lì. Si fa pezzi piccoli. E allora? Signori, grazie per l'accoglio, vi auguro un buon 194, un buon conto per domani, dai, ciao da, quarantine per me, dai. Ciao Giuseppe, ci sentiamo, buonanotte. Avanti Gigi. Yeah, ciao Giuseppe, buonanotte, ciao. Paga proprio Gianluca ma le prendo si deve essere zombie. No, adesso vediamo bene, se non ci faccio più facendo il microfono Gianni, tranquillo. Oh capi, oh, questo c'è anche a me. Mi sei tu tirato un giro e un grugnolo e mi su mollone. Staccato il condizionatore, che aveva la lettera e l'ho acceso, Ho acceso il condizionatore perché stanotte ero tutto un paio di settimane che non stavo facendo nulla perché stava bene, forse pure di più, però stanotte l'ho acceso. Sto sudando di là. L'ho acceso in cameretto e ho chiuso la porta. No, io qua aperto la pietra finestra e sto facendo areggiare. No, io l'ho abbassata, lo sai per quale motivo. L'ho abbassata perché se no pensa che sia guardato là. Ma già c'hai i mucchietti tra un bucchetto e l'altro, Pensa che sta qua a vedere, non si sa mai. Un bucchetto e l'altro della serranda. Spettacolo continua. Non si vede il buio, non si sente la luce. Allora non si chiama così a Bacco la Bici, ma io, questo lo voglio appunto. E non lo so, ma eppure l'ha fatto, non so per quale motivo eppure l'ha fatto. Mi sembrava che non ci fosse, insomma, se fai ai pipì inutili almeno si fa i denti. E poi invece ho visto proprio il triangolo, poi se ne è accorto, si è subito entrata, è sparita davanti alla finestra. Gianni, secondo te una non lo fa apposta così a spogliarsi completamente e mettersi davanti alla finestra, sapendo che c'è la casa di fronte che vi vedo? Ho visto la stessa niente, Gianluca ci ha detto che ha fatto di compagnia Gianpaolo. Sì, è cotto di sonno. Perché io non ne ho sonno, io mi sono andato alle 4 stamattina, domani mattina sono andato alle 4 lo stesso. Non ho sonno, hai capito? Il problema è che non ho sonno. Sì. A me ieri notte, stress del lavoro, mi ha fatto dormire. E tremavo proprio questo tremolio di nervoso proprio. Tachicardia, stavo per svegliare la mia moglie, non vedete che ho fatto. Ma no, io già mi sono dormito, ho preso sonno subito e ho sentito la sveglia suonare stamattina. E mi sono alzato. Va bene già, non ne ho sonno, però guarda a vedere questi. Sai che c'è un po' di sonno? No, non mi piace. Mi siedo leggermente nel divano là adesso, nell'altro divano e la televisione, e insomma faccio da dormire, però in 10 minuti sono cotto. Che c'è il colpo grosso a quest'ora, Che cosa guardi? Sono un bambino, non sono come voi che sono già attempato, ben sentiti, eh? E la cosa è il cocco grosso, si va una volta ne fa per fare il cocco grosso. Uno dei programmi che mi ha svezzato era con Umberto Smaila su Odeon TV e alla fine c'erano le ragazze cincine e tutta una serie di cose. Cincin, i comprimi di baci. Sì, per la sovramodulazione. No, non ti ho sentito. Sì, ma lì erano in televisione, invece qua io a volte li vedo dal vivo, ho capito. Infatti adesso un paio di teste non abbassano, come si vuol dire, dai. E comunque sono in QRX, vi sto piacevolmente ascoltando, dai. Sì, ma hai capito, non solo le sette, ma qua anche il triangolo si è visto nero, Dove? Dove il sud del suo quadro? No, qua non stasera, ma un'altra sera è capitato, capito? Nella finestra di fronte alla mia. Non solo, io ho detto, ma sarò io che ci vedo male, c'è qualche maglietta che c'è la forma delle sette. Ecco, ma invece poi pensavo bene da parte, proprio alla fine è stato illuminato dentro. Come sei girato di fronte in faccia, quasi bene, se hai visto il triangolo nero, no, questo è girato completamente. Allora si consiglia di andare nel negozio dei cinesi e prendere due cannocchiali, un cannocchiale. Ah no, non c'è bisogno, è vicino, capito? È vicino, non c'è bisogno di cannocchiale perché è molto vicino, capito? Com'è? Di quelle vecchie o di quelle giovani? Ho già il giovane per piazzata pure. Giovane, cosa avrà? 30, trentina d'anni. Ma io non capisco una cosa, posso? Non vuoi capire tu, Luca, dimmelo a me cosa vuoi capire. Io non capisco una cosa, Luigi. Noi ci modichiamo guardi, ma noi, andate mai di noi ci indicamo. Cosa vuoi che ti dica? Io mi è capitato, io sono uscito fuori in terrazzo, hai capito? Sono uscito fuori in terrazzo, così sono uscito, era un po' di... Sono uscito così, c'era a casa, di realtà c'era a casa, sono uscito così e... Ma ho visto illuminato e mi è venuto l'istinto di girare così a guardare. E ho visto che proprio bene, perché ce l'ho a un passo, pure a prendere la palazzina che c'ho a fianco, fianco al garage mio lì, che non è molto distante quella palazzina, la finestra è aperta, bella spalancata, questo è proprio il treno, proprio bello, poi come si è avvicinata un po' di più, ho visto tutto il triangolone, è lì che io stavo, allora stavo guardando meglio, puntato bene, e lei cosa ha fatto? Lo sguardo su e ha visto a me che guardavo, ha fatto uno sguardo e se n'è entrata dentro dall'altra parte. Luca, non ti toccare. Hai fatto svegliare Antonio, Gigi. Cosa è successo? Che è successo che io sono molto amico con col fidanzato, come lo chiamo, perché non sono sposato. E mi capita che la vedo, che cosa, la incrocio, la cosa mi vergogno io quando la vedo, cerco di evitare perché mi vergogno io, ed è lì che la nutano io. Vabbè. E la categoria che acchiappa di più da questo punto di vista sono gli idraulici, vedi? Ma c'è la... L'idraulico di più, perché ti entra in casa lì e sta basso e vede cose che non deve vedere, vede le cose da un'altra angolazione. Tu cosa ne pensi? Comunque Gigi ha fatto rivedere Antonio con i suoi racconti. Antonio Grodi, Antonio Bombolo. Bombolo, non è sentita la risata. No. E ha fatto... E Antonio, qua se tu vuoi vedere devi pagare il biglietto, mi paghi il biglietto e ti faccio vedere. Certo. Cappa, non è che mi eri svegliato, ma stavo facendo cosa e ho sentito questa bella notizia. Di quel bel spaccatrudio, cappa. Ui, Luca. Pronto? Devi vedere quando la manescare, capito? Non si mette la minigonna. E devi coscia lunga questa. Tu devi vedere quando col culo indietro scendete, se vedono le mutande, la fanno per te e la fanno le scale. Nonna santa. Lo giuro. C'è il cascherello la doccia. Ma mettimi la brandina fuori, fai qualcosa. Io si butta la finestra e salta nel lancio. E la è aspro il muro, è 3 metri il muro, se no di più pure. Sarà un problema, ponimo la cara. Oh, dai, buona notte, dai. Sto facendo mille cose qua dentro perché mi sto ordinando un po' di cose, sennò non lo faccio mai. Dai, buona notte, dai, continuate. Ho sentito questa bella notizia e quindi sono entrato così al volo. Che è salita la libidina a mille, di la verità. Ma io dalla mattina alla sera gioco sempre a questa maniera, quindi già lo sai, alla sera. Vabbè, grazie per aver detto, non mi interessa. Avanti, io. Ragazzi, dai, io mi vado a guardare un po' di TV. Stavo vedendo, ho iniziato a guardare quel programma delle... diciamo delle, quel filmato degli animali, delle, ma sappiamo un po' della natura, le piante, le cose, mare, pesce, e poi sono venuto qua, stavo guardando lì, sono venuto a farmi due chiacchiere, non c'è il baracchino, se ne trovo pure. Però vado adesso, se no mi piglia il sonno a me qua, se non rimango sempre sveglio fino a domani mattina, a quando vado a lavorare. Quindi mi siedo 10 minuti là nel divano e subito mi viene il sonno, e così vado e mi corro. Dai, io... vi do una buonanotte a tutti, Gianluca se c'è l'ascolto, Antonio Grotti, a te Gianni, a tutti gli ascoltoni. E con questo riprendi tu Gianni, che non riprendo più, vado a sdraiarmi un po' nel divano così mi viene il sonno. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao Gigi, buonasera, buonanotte a tutti, abbiamo anche problema e sentiamo. Avanti Gianluca. Ehi, come no, ciao Gigi. Buon riposo, molto per domani, se coincide, magari ho detto sul 5, rimango, lo lascio acceso lì magari se entra Antonio Falchetto e via dicendo, dai. Ok, avanti il prossimo. Buongiorno. Sei dormito, vabbè. Anche io vi saluto tutti cordialmente, dai, chiudo anch'io perché è già per me che per me. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, ne approfitto per salutarvi e voi siete qua a 4 quando lo farete. Ciao Gianluca, ciao Robby, ciao tutti gli ascoltoni e anche Antonio Bombo. Avanti, di nuovo Gianluca, poi ti aspetto per il finale. Ciao, saluti, tutto ricambiato. E ci sentiamo alle prossimine, anche domani. Ciao, buonanotte. Ciao Gianpaolo, Paolo, ti ho sentito, mi stavi salutando. Buonanotte anche a te. Ciao, buonanotte, ciao.